Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Voglio dire che Parenzio lo raffiguro in un faccia da culo da cane da caccia, mentre invece lei, signor Giuseppe, salvando sua madre, perché so che sarai di una madre onorabilissima, è un figlio di tre puttane. Io la trasmissione la riassumo in questo: a Cruciani, a decaduto. È meglio che non mi incontri il tuo galoppino con gli Arenzo. Con gli Arenzo? Perché? Che cos'è? Se non un enorme coglione. Vabbè, c'è un portafoglio qui come al solito, caro Parenzo, no. C'è un portafoglio, sì. Allora, per l'ennesima volta, Barisoni, adesso gli frego qualche soldo, eh. Ah, oh, c'è anche moneta straniera. Che moneta c'è? Straniera, che nel c'è? Portafoglio il signor Barisoni, dimenticato. 100 non mi... cavolo è questa roba qua? 100 rupie. No, 100 corone, 100 corone. Ah, 100 corone... C'è scritto Cheskik. Che cavolo è Cheskik? Cheskik che è? Una Repubblica Ceca, no? 100 corone. Ah, in giro per bordelli, eh. No, ma che voglio, ma povero Barisoni, a me piace. Viva Barisoni! Molti soldi in contante, vedo. 50, 100. Ma perché devi guardare nel suo 200, portafoglio, scusa? Lasciato qua a disposizione. 200, 100, foto del figlio, vabbè. Innumerevoli carte di credito. Ma innumerevoli. Come innumerevoli. Comunque è vero, perché un mio vecchio amico mi diceva: devi farti tante carte di debito, anziché dire tante carte, su diverse banche, spalmate su diverse banche. Poi le paghi, però. Poi le paghi. Ma che paghi? Non paghi niente. Ma come paghi tutti niente? I conti. Fai i piccoli appoggi su tutti i conti, ma non paghi. Ma come non paghi? Ma certo, in ogni adesso banca. Diciamo online puoi anche pagare zero. Ma in ogni diciamo, tu se vai in ogni banca, apri un piccolo conto, metti 200 euro in ogni banca, poi vai in rosso, che ti frega, parti con le carte di credito in tutte le banche, che te frega. Ci sono carte gold, tutte carte gold. Beh, Barisoni, eh? Stiamo parlando di Barisoni, però. Faccio parte anch'io del fan club femminile di Barisoni. Barisoni, sei troppo sexy. Carta SIM nera, c'è una carta SIM nera. Credito, vabbè, non si può dire, va, credito. Vabbè, vieni a riprendere sto portafoglio, rotto i coglioni adesso, basta, ogni volta mi tocca fare sta sceneggiata, è già vecchio questo sketch, è già vecchio. C'è un vecchio centro CONI, centro sportivo italiano, anno 81-82, con una vecchia foto. Guarda che era veramente un bel ragazzetto da giovane. Avviso alle compagne e ai compagni di Radio 24, abbiamo liberato lo studio di Roma per qualche ora, semplicemente per permettere l'emissione della trasmissione orrida radiofonica La Zanzara. Nel corso della diretta verranno dati però da Mario Capanna, cioè dal sottoscritto, alcuni aggiornamenti sullo stato di salute del vitalizio. Da oggi la Radio 24 si chiamerà Radio Vitalizio, grazie. Come cazzo si fa a dare in giro con sto portafoglio? Uno dice: oh, scorda, grazie, te lo deve tirare fuori ogni volta che pesa 25 kg. 25 kg di portafoglio. Cioè, tutti contanti, tessere anche dell'81-82, e una ventina di carte di credito Super VIP. Vabbè, basta, dai. Allora, io non dico niente, non voglio dire niente. Se no sembra che uno ce l'ha sempre con il presidente della Camera, con la signora Boldrini, eccetera, eccetera. A proposito dei gravissimi fatti accaduti a Colonia, adesso che le persone non siano state stuprate materialmente dal punto di vista, come dire, penetrate, no? Ecco, diciamola tutta. Sono state ma molestate, lo stupro molestate. È anche no, due denunzie di stupro ci sono state, sì, per la verità. Sì, forse sì. Comunque, no, due denunzie circondate, di stupro circondate, molestate, toccate, palpate, addirittura uno gli ha messo un razzo, non so che, un petardo, no, ferite gravissime, eccetera. Dettagli non ci interessano. No, come no, ci interessano, no, moltissimi dettagli. Allora, il presidente della Camera, signora Boldrini, la quale, diciamo, un po' incautamente aveva elogiato il sindaco della città dove sono avvenute queste cose, Colonia, dicendo che è un esempio di tolleranza, di accoglienza, eccetera. Sindaco eccetera. Donna, peraltro. E infatti si è visto, la signora Boldrini si è espressa in questo modo, caro Parenzo. Lo puoi dire tu tranquillamente, dato che, insomma, una persona non lontana dalla tua idea politica. No, mai difeso le sortite della Boldrini. Allora, la signora Boldrini ha detto che lo stupro è una mancanza di rispetto, in alcuni casi anche violenta. Così ha detto oggi. A Colonia sono accadute delle cose, cioè delle mancanze di rispetto, in alcuni casi anche violenti. Ma tu le capisci? Definizioni sono sempre. Che cosa vuol dire mancanza di rispetto? Dai, su. Sono state molestate delle donne, basta. È una sì, no. È il un punto goffo fondamentale. Tentativo di dire delle robe che non hanno senso, quello della Boldrini. Cioè, non capisco. Non capisco il senso di questa roba, ecco, non c'è niente da difendere. Ha chiamato queste cose qui mancanze di rispetto, in alcuni casi violenze. Così ha detto la solita cazzata. Poi non capisco perché, scusami, perché si deve esprimere su quello che è accaduto a Colonia. Quello, sai, se uno su le ogni chiede, cosa. Se è uno meglio chiede stare zitti. La terza, è capito, meglio ma stare se uno zitti. Chiede, se un giornalista, un qualunque, un bubù chiede un commento alla terza carica dello Stato, quella dice no, non posso parlare. No, dirà la sua. Salvini sostiene che Merkel e Renzi sono complici di quello che è successo a Colonia. Io immagino che lo dica perché, secondo Salvini, Merkel e Renzi fanno entrare tutti in Europa. Salvini. La Merkel e Renzi sono complici di questo problema e delle eventuali reazioni razziste mai giustificate, però un capodanno dove ci sarebbero gruppi organizzati di nordafricani che vanno in giro a molestare, a violentare donne, io non me lo ricordo in Europa, ecco, non vorrei che fosse l'inizio di una serie di idiozie di questo genere. Allora, poi c'è il nostro amico Librandi, no? Deputato della fu sciolta civica. Tesoriere, mi pare, anche. Sì, no? Non lo so, insomma, un ricco industriale del nord, di Saronno, spesso in televisione, eccetera, il quale dice, non si capisce su quale base, con i poliziotti italiani non sarebbe accaduto. Ti giuro, dice proprio così, cioè con i poliziotti italiani non sarebbe accaduto. Adesso uno può dire qualsiasi cosa, per carità, è in televisione anche spesso per dire 1, 2, 3, 4, per dire tutto quello che vuole, però quale sarebbe il motivo? Perché con i poliziotti italiani non sarebbe accaduta questa cosa? Cioè, i poliziotti tedeschi che cosa sono? Sono più permissivi? Sono più stronzi? Sono più stupidi? C'è più libertà? Cioè, non si capisce. Io credo che a Colonia, io avevo letto che c'erano dei poliziotti e credo che se fossero stati i nostri poliziotti o le nostre forze dell'ordine quelli che hanno diciamo creato questi problemi, stuprato, fatto cose che non devono fare, non l'avrebbero fatto sicuramente. Quindi dico alle italiane di stare serene. Si può dire invece, no, sentiamo ancora Librandi, perché Librandi ha detto che bisogna accogliere solamente donne e bambini e gli uomini sono pericolosi, una specie di rivoluzione. Prima ha detto che bisognava accogliere comunque le persone, eccetera. Invece lo status di profugo, dice Librandi, va dato solamente alle donne e ai bambini perché gli uomini sono pericolosi, a parte che arrivano soprattutto uomini nell'80% dei casi, cioè chissà perché arrivano solo uomini. Beh, ma comunque, lui dice gli uomini non sono pericolosi, ma è impazzito? Cambierei anche le regole per la, diciamo, per ottenere lo status di profugo e eviterei, cioè stopperei lo status di profugo agli uomini, farei venire solo le donne e i bambini e gli uomini stiano a casa perché sono pericolosi e tra l'altro dimostrino coraggio, stiano a casa a cercare di risolvere i problemi del proprio paese. Ora, c'è un ricercatore universitario a proposito di quella... Cioè, bisognerebbe spiegare a Librandi che non è che basta la dichiarazione di Librandi per non far venire gli uomini qui, bisognerebbe dirglielo. Se bastasse Librandi, uno manderebbe, come dire, no, in mondo visione, in quei paesi dell'Africa, metterebbe dei maxi schermi con Librandi che dice mandateci solo i bambini, voi uomini rimanete lì. Sì, ma che senso ha dire... Blande, dico, che cazzo è Librandi, dai. Comunque c'è un ricercatore dell'università romana, Tor Vergata, sì, delle tantissime università romane. Tor Vergata, ottimo. Sì, questo Orsini, che dice che praticamente il problema è che non riescono a fare sesso questi qua. E non riuscendo a fare sesso, perché noi li discriminiamo, non so per quale motivo, sentiamo. Quello che i simpatizzanti di Al-Qaeda dicono è anche questo. Noi non possiamo fare sesso in Occidente perché siamo vittime di discriminazione, perché siamo poveri. Quindi attenzione, perché quello che è un tema... Aspetta, no. Quello che stai raccontando. No, io le sto dicendo che nelle ricerche che ho condotto e ho intervistato persone radicalizzate... Siamo alla follia, dai, siamo alla follia totale. Cioè, a me veramente mi colpisce la Boldrini. Come si fa a dire che quello che è accaduto a Colonia è una mancanza di rispetto? Cioè, è una cosa ridicola, mancanza di rispetto, dai. Ma se fosse successo... E poi non nomina mai la provenienza geografica di queste persone, perché non è un caso, cioè non è un caso che no, siano nordafricani. Sembra che la maggioranza degli arrestati sono siriani, però, ma come siriani, nordafricani? No, vabbè, comunque sono siriani, la maggior parte delle persone attenzionate. Grande ritorno alla Zanzara, Marione Borghezio, buonasera. Buonasera, anche se le notizie che arrivano dalla Germania sono... Sì. Estremamente preoccupante. Vabbè, ma tu non secondo sei... me molto indicativo. Però scusami Mario, tu non sei preoccupato. In altre mica epoche sei... non sarebbe avvenuto. In altre epoche, dico, in altre epoche. A te non te toccano tanto. Io dico, ma l'osservazione è giustissima. Perché oggi siamo di fronte a un fenomeno nuovo che ricorda fenomeni del passato, cioè l'esplosione del razzismo e della violenza razzista delle persone di colore contro la donna bianca. Questa è la realtà. Secondo te il fenomeno è nascondersi dietro il dito, dire che non è vero, ma i fatti sono fatti. Cioè tu stai dicendo che il fenomeno è l'uomo di colore e la donna bianca, questo è il punto. L'uomo di colore, direi l'immigrato di colore. L'immigrato, certo. L'immigrazione selvaggia produce prima o poi violenza. L'immigrato di colore e la donna bianca. Delinquenza e anche magari oggi per induzione da parte di centrali probabilmente legate al fondamentalismo. Scusami Mario, ma queste masse di immigrati e forse anche di rifugiati in situazione di difficoltà sicuramente. Però Mario, scusami un attimo, Mario, secondo te c'è una propensione da parte del nordafricano allo stupro? Ma io penso che a questa domanda possa rispondere meglio di me qualche studioso dell'argomento. Io sono un modesto politico abituato a fare i conti con la realtà. La realtà ci dice che le statistiche, spesso obnubilate, nascoste, e adesso purtroppo i fatti sono emersi nella loro cruda realtà, cioè in questa occasione in cui si sono visti mille personaggi di colore, arabi o neri, andare alla caccia della donna bianca, Beh, non poterlo mica dire che ce lo siamo inventato noi. No, noi vabbè, ma secondo te, cioè l'uomo di colore nordafricano ha una propensione, in particolare islamico magari, ha una propensione allo stupro più elevata rispetto ad altri? Io credo che non sia questione di religione, ma sia questione proprio di pelle, appartenenza etnica. Sicuramente sono fatti che stanno esplodendo. No, ma dimmi la tua su questa. L'immigrazione selvaggia incontrollata, di massa, la creazione di questi ghetti. No, ma d'accordo, io ti parlavo di un'altra cosa, però. Ma io ti parlavo di un'altra cosa. Secondo te. No, ma io ho capito. No, la volevo una risposta chiara. Direi che la risposta è nella domanda. Cioè i fatti ci dicono che oggi c'è un'esplosione di violenza immotivata. No, ma d'accordo, ma quello lo sappiamo. Però tu devi essere chiaro. I nordafricani sono maggiormente. Un'affermazione di questo genere, anche se suffragata dai fatti, oggi con le normative che ci sono. No, ma lascia perdere la normativa. Tendono di più allo stupro, sì o no? Ma purtroppo su questi argomenti. Anche se mi sembra piuttosto evidente la risposta che secondo ma che te me la fai sotto a dire quello che pensi adesso te la fai sotto a dire quello che pensi ma è una cosa pazzesca. Io dico che le leggi vigenti non mi consentono di dire la verità. E qual è la verità? È quella che le leggi vigenti non consentono di dire. E quale sarebbe? E la verità che le leggi vigenti non consentono di dire è che ci sono etnie che propendono evidentemente in maniera piuttosto netta allo stupro, comportamenti che oggi come oggi ci sono etnie gravissimi di etnie che stuprano città e probabilmente anche nelle nostre città, perché nessuno lo dice, nessuno lo sottolinea, ma questi fatti stanno aumentando. Va bene, Mario, ci sono stereotipo incredibile, il disprezzo verso la donna bianca e la donna diciamo non musulmana è abbastanza evidente nei comportamenti e nelle è uno stereotipo incredibile, fermi. Allora, la prima cosa che io farei per la città è il traffico, cercare di regolare il traffico sicuramente meglio di come adesso, la viabilità. La Zanzara. Allora, possiamo dire però che il sindaco di Colonia che consiglia alle donne di tenersi a distanza di un braccio dagli sconosciuti è una deficiente totale. Cioè, lo possiamo dire o no, Parenzo? Perché ma totalmente. Ma di che stiamo parlando? Uno deve essere libero di andare in giro anche alle 4 di notte in una città senza correre. Diciamo, è una stupidaggine che è attenuata dal fatto che, siccome l'ha detto una donna, cioè, se questa roba qui l'avesse detta, non giustifico, anzi, è una stupidaggine per me. Ma se la stessa cosa l'avesse detta un Cruciani qualunque, un uomo qualunque, un Salvini qualunque. Un Borghezio, sì. Un borghezio qualunque, sarebbe successo il finimondo rispetto a quel che già è successo in Germania. Sta scrivendo una specie di decalogo su come comportarsi. Sì. Le donne sanno benissimo come comportarsi, dove andare, dove non andare, e se non lo sanno, peggio per loro, le donne, gli uomini, quello che è. Cioè, bisogna tenersi distanti da uno straniero. Ma è completamente impazzita questa qua. Cioè, non a caso fu elogiata dalla Boldrini. Non dico niente, fu elogiata non a caso dalla Boldrini. Allora, Mario Borghezio non vuole dire quello che pensa perché ha paura di essere tacciato da razzista. Quello che pensa è molto semplice. Lui pensa che ci sia una. No, lui pensa di essere. Io non mi nascondo dietro al mio pensiero. No, ti nascondi, come no? Io dico che quello che molti pensano. Oggi purtroppo, sottolineo il purtroppo, viene confermato da questi fatti. Sì, va bene, ma tu dici un'altra cosa. Non sono circoscritti alla Germania. Sì, tu hai detto una. Dobbiamo prepararci, chi è favorevole all'immigrazione di massa. Sì, però tu questa situazione, ma lascia perdere, la quale c'è poco da fare. Tu hai detto un'altra cosa, però. Tu hai detto che le popolazioni, diciamo, che hanno un'etnia nordafricana, eccetera, sono più propense allo stupro rispetto ad altre, rispetto, per esempio, che ne so, ai cinesi. giusto? Io dico che indubbiamente questi comportamenti, soprattutto di massa, e soprattutto in certe situazioni di emarginazione, uso di alcolici, eccetera, indubbiamente inducono. Cioè, ce l'hanno nel sangue, ce l'hanno nel sangue. Statistica. Ma io non posso fare un'affermazione di questo genere perché non sono un esperto della materia, però mi permetto di dire che la realtà ci pone di fronte. Sì, vabbè, dai, però non fare il professore universitario. Non fare il professore universitario, Mario. Cioè, tu pensi chiaramente che questi qua hanno nel sangue lo stupro. Diciamo la verità. Io penso chiaramente che quelli che li hanno fatti venire non hanno pensato a questo pericolo. E la Boldrini che dici? Beh, la Boldrini è al di sotto di qualunque considerazione da questo punto di vista, perché è di una irresponsabilità totale. E io credo che alla fin fine non abbia tutti i torti la donna sindaco, che secondo me ragiona come donna e dice oggi che bisogna stare lontani a Bologna, dove ci sono queste sacche di emarginati, di persone che, vabbè, allora? Che quando vedono una donna bianca con la minangonna non capiscono più niente. E perché non capiscono più niente? Perché non capiscono più niente? Ha dato un buon consiglio. Perché non capiscono più niente? Dissento da voi. Dico che in questa occasione devo dire che questo sindaco ha espresso un'opinione che è rispettabile. Va bene, Mario, perché non aggiungere il fatto che i sindaci del PD dovrebbero fare un mea culpa. Vabbè, d'accordo, lascia perdere i sindaci del PD. Ma perché perché non capiscono più niente quando vedono una donna bianca o una gonna? E questo bisogna chiederlo loro. I comportamenti. Ma io te lo sto chiedendo a te, Mario. I fatti sono questi. Vabbè, ciao Mario, ciao. Arrivederci. Ciao. Giulio, Milano, vai! Sì, pronto. Dimmi. Ciao Cruciani, senti, tu sei in gamba, ma quel pirla lì che hai di a fianco... che ha fatto? Che ha detto? Come che ha detto? Ogni volta che parla, e lui mi fa, come ti dico, mi fa capire a mia moglie quando mi rompi i coglioni, no? De dov'è questo Giulio? Mi rendo conto che... L'amico Giulio, di dov'è? Di dov'è originario Giulio? Sì. Il buon Giulio, il buon vecchio Giulio, di dov'è? Io sono del Sud America, caro. Sud America. Dove l'uomo è uomo e la donna è donna, ma tu non sai che cosa sei. Niente. Io ogni volta che ti sento, mi viene voglia di ammazzarmi, caro figlio. Voglia di ammazzarti. Beh, allora potrei continuare a parlare a questo punto. Te sento lui e mi fa arrabbiare. Mi fa sentire che mia moglie è una santa al lado tuo. Perché? Che c'entra la moglie? Perché c'entra la moglie? Questo non capisco. Perché la moglie? Perché mia moglie rompe, come tutte le donne rompe. Ma questo qui, quando lo sento per la radio, allora faccio un respiro e dico, sì, tanto Dio. Santa mia moglie. Benedetta mia moglie. Ma perché il paragone tra tua moglie e Parenzo? Questo non l'ho capito. Perché questo qui non ho capito che classe di uomo. Cioè, ti fa così incazzare che rivaluti tu il carattere di tua moglie. Questo è il punto. Bravo. Mi fa così incazzare questo qua. Ma cos'è che ti fa incazzare? Spiega, cos'è che ti fa? Tu non hai idea quanto mi fa incazzare. A volte dice stupidaggine, va contro la religione, va contro questo. Contro la religione quale? Contro la religione si sbaglia, però. Contro la religione quale? Contro la religione cattolica. Ma non mi pare. Ma non mi sembra. Al limite sono io. Quante volte attacca al prete, qua, là. Ma veramente quasi mai. Tutti i giorni la zanzara. Guarda che... Io sono ma uno lei che... oltre però a sentire dovrebbe anche, caro Giulio, capire, perché sentire non è capire, non sempre, cioè uno dice anch'io ho sentito. Vabbè, Giulio, che... ciao, Andrea, ciao, da Roma, ciao. Andrea Roma, dai. Sì. Dimmi. Era a proposito della questione di successo a Colonia a Capodanno, volevo semplicemente segnalare che è una prassi in molti paesi arabi. Cioè, se vi andate a vedere quello che è successo nel 2013 a Piazza Tahrir, era successa esattamente la stessa cosa. È una specie di grande festa di massa. Mm. Quando ci sono degli eventi dove ci sono migliaia di persone, questi giovincelli arabi si radunano e fanno questa specie di, non lo so, goliardata, chiamiamola così, che si mettono attorno alle donne, le palpano, le stuprano, gli rubano le cose, eccetera, eccetera. Mm. È una cosa che non è che dici, è successo a Colonia, chissà chi sarà stato, ma saranno arabi, non saranno arabi? È sufficiente anche là farsi una veloce ricerca sugli articoli del 2013 e uno vedrà che durante tutte le manifestazioni di piazza delle primavere arabe succedevano esattamente queste cose e le donne provavano a denunciare questa cosa, nei paesi arabi gli andava un po' peggio che da noi e quindi gli facevano il test di verginità per vedere se erano state palpate perché erano zoccole loro o se era colpa di chi le aveva palpate, ma è una cosa, cioè, tu dici che tu dici una cosa abituale nei paesi arabi, andate a vedere quello che succedeva durante le primavere arabe. Il problema è molto semplice: più arabi avremo in Europa e più questa cosa sarà la prassi anche da noi. Più le donne staranno male, sicuro, più le donne staranno male, questo è certo, più arabi da noi, più le donne staranno male, più le donne saranno in pericolo, su questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio, questa grande che l'Islam consideri le donne in un certo modo, che l'Islam consideri le donne sottomesse. L'Islam, in un certo senso. L'Islam saudita, l'Islam. Anche sì, qui, vabbè. Non fammi tornare. Perché la moglie di Ciauchi è sottomessa, secondo te. Non ho Ciauchi. Daniele, da Verona. La moglie di Abdallah Kabakebji è sottomessa. Dai. Daniele, Verona, dai. Ma io non lo so, ragazzi miei. Daniele, su. Dai. Pronto. Ma quelli non sono islamici, te l'ho detto più volte. Che so. Daniele, vai. Sono bubù. Dimmi. Dottor Cruciani, buonasera. Ecco. Dottor Parenzo, buonasera. Vai, rapido. Allora, velocissimo, riguardo all'affermazione della signora Boldrini alle donne che a Colonia sono state palpeggiate e dove lei ha detto che solamente... Sì, lo sappiamo che ha detto. Che dici tu? Beh, io direi che vorrei che fosse la signora Boldrini palpeggiata da qualche nord africano o da qualcun altro per vedere se ancora... Ah, cioè, tu dici, ti auguri che sia palpeggiata da qualcuno così prova quello che è successo e se è semplicemente mancanza di rispetto, questo vuoi dire? No, quella è violenza pura, non mancanza di rispetto. Va bene, grazie. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La Zanzara. La zanzara è come le donne, alcune volte potrà starti sui coglioni, ma quando non c'è, ti manca. La zanzara, patrimonio mondiale dell'umanità. E anche la figa. Lorenzo, non so se hai letto questa storia incredibile di un organo dello Stato che si chiama CNEL. Come no? Abolito da Sorrenzi, no? CNEL, abolito, sì, abolito. Dovrebbe essere abolito quando entrerà in vigore la riforma costituzionale, chissà quando, naturalmente. Referendum confermativo. Nel frattempo i signori del CNEL continuano a esistere, naturalmente, non è che li possiamo sopprimere, non c'è dubbio. Continuano a esistere. No, continuano a esistere come lavoratori dello Stato. Cioè, dove devi metterli? Sì, allora, in Italia uno sopprime il CNEL, in teoria quando un'azienda privata chiude, scatolone, i dipendenti tutti vanno a casa, esatto. Nel caso del CNEL, essendo dei privilegiati dipendenti pubblici, no, sono in attesa di trasferimento ad altri uffici dello Stato. Solo in tre hanno accettato. Momento, fossi un dipendente del CNEL, avrei già occupato quella sede e non me ne sarei andato qualora venissero a sgomberarla, come negli anni 60, a calci nel sedere con i San Pietrini in faccia. Perché, avremmo scusi, lanciato. Non fanno un cazzo. Negli non hanno anni mai fatto 60, un cazzo quando storia. Occupammo la statale di Milano, come lei ben ricorderà, formidabili di quegli anni, come scrivemmo in un memorabile libro a firma di Mario Capanna, no, ma è lei non Capanna. Certamente non si azzardavano lotto politico c'era per tutti. Ho capito, ma il professore si azzardava a dire di no, veniva scaraventato fuori dalla classe, pedate nel sedere, formidabili quegli anni, amico mio. Ho capito, ma in 60 anni i signori del CNEL, hanno prodotto solamente 14 proposte di legge. Giustamente, hanno fatto molto bene perché si sono confrontati per delle ore, per dei giorni senza fare un cazzo e hanno preso soldi dallo Stato. Una battaglia di civiltà giustissima, fondamentale, che noi difenderemo fino in fondo e lo faremo dai microfoni della Radio 24, che oggi è stata momentaneamente liberata. Momentaneamente. Vabbè, comunque, la notizia è questa, che il CNEL, che poi significa Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Economia e Lavoro, organo costituzionale. Una cosa incredibile, che sì, non è mai servito a una beneamata mazza. Non a tantissimo. No, diciamo. Non è servita a una beneamata mazza, diciamo la verità. Pareri, però. Nulla. Gente pagata per non fare un cazzo. No, vabbè, produce pareri. Gente pagata per anni per non fare una mazza, dai. Perché non dobbiamo dire le cose come stanno? Gente per anni pagata per non fare un cazzo. Allora, sì. Il CNEL, in attesa di chiudere, perché è in attesa di chiudere, in Italia le cose non sono mai semplici, no? Si sono regalati, signori del CNEL, si sono regalati dei premi di produzione. Quale produzione? Uno dice, uno deve produrre qualcosa. Hanno prodotto un sacco di roba in questi anni. No, una mazza, soprattutto nell'ultimo periodo, diciamo, dove, essendo stato praticamente l'ente soppresso, nessuno chiede più i pareri al CNEL, eppure continuano a prendere premi. In particolare, nell'anno di grazia 2014, quando già, come dire, la procedura di dismissione era in corso, questi signori si sono visti aumentare i loro premi, i loro stipendi, già abbastanza lauti, dirigenti, parlano naturalmente, di 20.000 euro circa all'anno. Devi considerare che c'è un dirigente al CNEL, mi prudono veramente le mani, e il quale, un solo dirigente, per fortuna, il quale prende 200.000 euro l'anno. Ora io dico una cosa, va tutto bene, è una piccola goccia, perché 200.000, cioè nel bilancio dello Stato è pochissimo naturalmente, no? Però perché un signore deve continuare a prendere tra stipendio fisso, parte retributiva fissa, parte variabile e poi anche la retribuzione di risultato, che è sempre uguale, poi 200.000 euro come dirigente di un ente che non esiste sostanzialmente più? Perché? Per quale motivo? La gente che lavora in maniera normale, che rischia, beh, no, questa cosa qui gli girano i coglioni, un po' gli girano i coglioni. Allora, uno dei dirigenti a cui è stato attribuito questo premio per il risultato, quale risultato non si capisce, si chiama Venturi, credo che sia una donna, sono 4 o 5 i dirigenti del CNEL. Proviamo a raggiungerla telefonicamente, questa signora Venturi. Andiamo. Com'è che si chiama la signora Venturi? Ha un nome strano, Larissa Venturi. Sentiamo. Pronto? Sì, buonasera, signora Venturi? Sì. Salve, qui Radio 24, disturbo? Mi dica. Senta, ho letto oggi sul Messaggero un articolo che ha questo titolo: il CNEL in attesa di chiudere si regala premi di produzione. Sì. Siccome lei risulta tra le persone che hanno preso questo premio di produzione, volevamo qualche spiegazione. A che titolo, scusi? Come a che titolo? Allora, premetto subito che il premio di risultato del 2015 non è stato erogato. Sì, beh, si riferisce al 2014 però. Sì, aspetta, mi sposto, che sto succedendo. Comunque, guardi, siccome so che Uso si fa delle dichiarazioni, non sono autorizzata a rilasciare dichiarazioni. No, che Uso si fa? Nessun Uso. Sto dicendo, lei è uno dei dirigenti più importanti del CNEL. Siccome è uscito non sono dirigenti di importanza, sono tutti uguali, guardi. Beh, tutti uguali. Nessuno è uguale a un'altra persona, per fortuna. Le assicuro. So che nel pubblico è così, però è vero che vi siete regalati. Ascolti, noi abbiamo un segretario generale, può parlare col segretario generale che saprà darle tutte le informazioni dei. Ma è vero che vi siete regalati dei premi di produzione pur avendo non ci regaliamo nulla, perché noi siamo pagati secondo la normativa vigente d'Italia. Sì, ho capito, ma nulla, noi abbiamo l'autonomia. Ma che premio di produzione ci può essere se uno non c'ha niente da fare? Io la invito a rivolgersi al nostro segretario generale, che ha sicuramente le competenze e il ruolo per poter. Scusi, ma il premio di produzione è relativo a un lavoro, ma siccome il CNEL non ha più niente da fare, non capisco. Cioè, questi qua pagati da noi nemmeno rispondono al telefono, capito? Uno si dovrebbe mettere sull'attenti. Sì, eccoci qua, dipendente del cittadino. Com'è che diceva Grillo una volta, no? Dei deputati. Cioè, sono nostri dipendenti, li paghiamo noi. Ok, li paghiamo noi e poi parli col direttore generale. Ma mi vuoi dire se prendi un premio per non fare un cazzo, sì o no? Tu che sei dirigente dello Stato, pagato dallo sottoscritto senza fare una mazza al CNEL. È una cosa incredibile, guarda. Momento, trovo un'arroganza incredibile nelle parole della radio della Confindustria. Ma quale arroganza, dai, sono su. Funzionari dello Stato pagati per non fare nulla. Lo abbiamo deciso negli anni 60. Ma ho capito, ma pagati purtroppo per non fare nulla. Per fortuna la radio dei padroni della cosiddetta Confindustria. Ma noi vorremmo che la gente un po' lavorasse. Deve cominciare a capire che non comanda più. Ormai non esiste più. Va bene ragazzi, andiamo a Verona. Lorenzo, vai. Pronto? Dimmi. Sì, no, ecco, sono Lambenedetto. Ciao, sono tornato ieri dalla Germania. Ciao, grande. Oh, ciao. Sono ciao. Tornato ieri, situazione drammatica in Germania. Ma perché non ti sei, tutte... scusami, Lampre, perché ti sei presentato come Lorenzo da Verona? Che è Lampre? No, Lorenzo da Lecco, capito bene. Ah, così vabbè, hai detto, Lorenzo da Lecco. Vabbè, io intervengo da cittadino normale, ho sentito lì Brando ogni volta litigo con lui. Parenzo lo sa benissimo chi sono, Parenzo. No, veramente allora, no. Non presentati, presentati a Parenzo, dai. Sono va bene, sono Lambenedetto, faccio video sulla Germania, Prezzi, compagnia varia, Albania in giro, sono spesso in televisione e litigo con tutti quei politici che vi chiamano. Scusa, Lambre, ma che cazzo fai nella vita? Spiega la Parenzo. No, io faccio di giorno faccio progettazione, io giro anche per il mio lavoro, faccio progettazione meccanica. Progettazione meccanica, ma che vuol dire progettazione meccanica? Automazione industriale, impianti, eccetera, eccetera. Lavoro spesso per la Germania. Ah, sì, ho visto i suoi filmati su YouTube. Sì, li ho visti. Allora? Bravo. Sono tornato ieri, guarda, la situazione in Germania è drammatica. Drammatica. Io ci ho abitato un anno, poi anche per lavoro l'anno scorso. Ma drammatica perché? Drammatica perché arrivano, poi ho parlato anche con tanti tedeschi, sono tutti incazzati neri, arrivano 5.000 immigrati musulmani tutti i giorni, sono 1.000.000 in un anno, ci sono quartieri completamente fuori controllo, a Dresda ci sono stati scontri della Madonna anche all'ultimo dell'anno. Tu dici colpa della Merkel? Sono tutti incazzati con la Merkel, ma ti sto parlando di gente tedesca che non è su posizioni radicali di estrema destra, ma sono incazzati neri. Oggi sta nascendo un sentimento filo Vladimir Putin forte anche fra i tedeschi. Vabbè, questo adesso... Perché lo vedono un po' come salvatore della patria. Comunque sono tutti incazzati. Io penso che le prossime elezioni il movimento Pegida, che è quello anti-islamico, avrà una crescita forte. Però situazione. Senti, veramente... ma tu agli stupratori cosa faresti a questi qua? Gli stupai, è una situazione difficile, cosa vuoi fare? Che ne so. Li metterei in prigione, gli taglierei il pistolino, però ti dico che la polizia ha veramente dei casini. Io ho anche un amico che lavora in polizia, non ce la fanno più, veramente ogni due secondi hanno una chiamata. L'invasione della Germania. Vabbè. Immigrati qua stanno facendo veramente dei danni, veramente dei casini micidiali. Ciao, Labre, Walter, provincia di Cuneo. Ciao, Walter, provincia di Cuneo, dai. Sì, buonasera. Dimmi. Mi riferisco al fatto di che certe etnie hanno l'indole di stuprare. Io mi sono sposato con una signora marocchina, ho conosciuto i suoi parenti, uno dei quali sono giornalisti, uno dei quali è proprio un chiarissimo avvocato di Casablanca, il quale quando è venuto da me ha visto una ragazza che faceva jogging, no? E ha detto, ma non c'è nessuno che la stupra. Dico, perché deve stuprarla? Ma lì da sola, così, che corre da sola. Questo è il parente poi... della cosa, capito? Beh, gli stupri devo dire la verità, sono perpetrati, se vogliamo usare questo termine, anche da italianissimi, direi. Caro Walter. D'accordo, però lui poi ho saputo che ha avuto un processo per stupro. Il fratello di mia moglie ha avuto un processo per stupro. Bella famiglia. No, è un problema suo, però. Cioè, tu dici che in Marocco tu sai per certo da tua moglie, eccetera, che i maschi stuprano. Sì, hanno cioè, non è indicato alle ragazze di andare via da sole, perché sono come delle prede, li corrono dietro. Anche mia moglie, prima di sposarla, mi dice, stammi vicino, anche se ero in compagnia mia, stammi vicino, perché sono pericolosi, ecco, tutto lì. Vabbè, Fabrizio, Modena. Fabrizio? Pronto? Dimmi. Sì, pronto, sono qua. No, io volevo bruciare Borghezio per l'anno nuovo. Volevo bruciarlo. Bruciare Borghezio. Che ha fatto? Per festeggiare il 2016. Io sono indignato, come è una parola che non ti piace, lo so. No, ma sono indignati, perché cosa? per il fatto che io spendo forse un centesimo, forse 10, per pagare un idiota che non è in grado di formulare nessun pensiero, nemmeno quello per cui sarebbe pagato. Vabbè, ma lui ha detto chiaramente che secondo lui i nordafricani, in particolare islamici, hanno una propensione quasi naturale allo stupro. Questo è il sì, punto. No, questo gliel'hai fatto dire tu. Ma no, ma è quello che pensa, dai. È quello che pensa, e allora che lo dica. Ed è una merda perché lo dice. Perché non esiste questa cosa. Siamo nell'ambito di una follia globale. Questo è un cretino, non sa parlare in italiano, non sa formulare un pensiero, e io debbo pagarlo. Allora vorrei che, per favore, bruciamolo. Bruciamolo. Ecco. Dai, Fabrizio. Esatto. Reazione scomposta di qualcuno. Normanno. Tanto facciamo una Normanno da Trento. Azione dimostrativa, bruciare Borghezio. Normanno da Trento, dai. Da Teramo, scusami. Normanno, vai. Allora, io volevo intervenire su quel fatto che state parlando. Vai, dimmi. Africa. Dunque, secondo me sì, perché io ho lavorato in Libia a cavallo tra l'81 e l'82, quindi ho vissuto lì per circa 6 mesi. E allora, che succede? Conosco bene questa gente e la loro cultura. Tra l'altro, anche qui in Italia attualmente il lavoro che faccio mi permette di frequentare queste persone, marocchini, senegalesi, eccetera. Tutto uguale, sì. Tutto uguale. Secondo me sono propensi a questo, cioè c'hanno dentro di loro lo stupro, la violenza sulla donna. È la loro cultura che li porta a questo. Perché ma cos'è l'Islam, la cultura, il fatto che... Che cosa? È il fatto che le donne lì, vede caro Giuseppe, lei la sera magari esce con gli amici, si va a fare un aperitivo, poi se si vuole andare a fare una scopata, sì, va a trovare una bella prostituta, fa quello che vuole fare. Vabbè, anche là però... No, là non si può fare. Lì non si può fare. Dici, sono repressi sessualmente. Bravo, sono repressi sessualmente. Le donne sono nascoste, non si possono vedere. Questi qui vivono per tanti anni senza vedere una donna in faccia, senza fare sesso con nessuno. Ho capito. Fermo là. Attento al DDT, sai. La Zanzara. Innanzitutto io non ho mai insultato la tua trasmissione di merda. Oh, sta calmo perché venga a Milano e ti spruzzo l'auta nel culo, ok? Siete criminali! Allora andiamo con Biagio da Caserta, vai Biagio. Buonasera. Niente, io volevo soltanto esprimere un mio sentimento, nel senso che dopo l'ultima uscita del nostro Presidente della Camera, io onestamente non mi sento più rappresentato, ma questo è un sentimento che esprime la maggior parte delle persone con cui parlo, e volevo chiedere anche a voi conduttori se la pensate allo stesso modo, se vi sentite ancora rappresentati. A me non me ne frega nulla. È la terza carica dello Stato, deve semplicemente dirigere i lavori della Camera. E invece? Se dice qualcosa che non condividiamo, non è che per questo non ci rappresenta. È la carica, ma che vuol dire? Non mi sento rappresentato dalla Boldrini. Non mi sento rappresentato. Ma che cosa? Non vuol dire nulla, ma capisce che non vuol dire niente. Lei può non sentirsi rappresentato da alcuni pensieri che lei ha sulla vicenda di Colonia, ma voglio dire, che ruolo ha la Boldrini? Terza carica dello Stato, cosa deve fare? Ha un ruolo di rappresentanza, deve dire parli l'onorevole Bubù, parli l'onorevole Cruciani e parli quell'altro, mettere l'ordine del giorno, andare a tagliare qualche nastro, e vabbè, avrà detto qualcosa di sbagliato su Colonia, ma non mi sento rappresentato dalla Boldrini. Ma dai. Sì, però se lei ha un ruolo istituzionale potrebbe evitare di dire ha detto una sciocchezza, ha detto una sciocchezza e non sarà nella prima nell'ultima sulla vicenda degli stupri in Colonia. A Colonia, sì. Vabbè, ma lui non si sente rappresentato. Ma cioè, che no, cosa vuol dire? Non è un partito, è una carica dello Stato. Cosa vuol dire non mi sento rappresentato? Ma ha ragione, dottor Parenzo, ha maggior ragione. Ma che significa? Lui dice, siccome dovrebbe rappresentare tutti... Ma vabbè, ma... Vabbè, ho capito, però non è che uno non può esprimere una opinione, un parere... Certo, parla purtroppo molto più di ad esempio, se uno dovesse dire parla molto più del suo collega a seconda carica dello Stato, Grasso, ecco, sì, non c'è dubbio. Ha l'intervista facile, questo sì. Certo. No, l'intervista, l'intervento. L'intervento facile, sì. Sì, il pippone, le solite cose. Ma il pippone, va bene. Va bene, Paolo Parma, dai. Buonasera a tutti. Dimmi. Dunque, c'è una cosa che mi lascia perplesso. A Colonia... Possibile che su 100 donne non ce ne fosse una che abbia fatto corsi di arti marziali e che potesse spaccare la testa a uno, due o tre degli aggressori? Ecco, il tenente Colombo di Parma. C'è un numero molto alto di donne che frequenta quei corsi. Grazie. No, non lo so, caro amico. Non prego, lo so. Cioè, tenente Colombo dunque, di Parma. E dunque, siccome... Ma qualcuna si sarà ribellata, infatti raccontano di essersi ribellate, dimenate, aver chiamato i loro amici che erano lì, cosa vuol dire? Colpi di karate? Ma che vuoi dire con questa cosa, Paolo? No, cioè con un colpo di karate si può ammazzare uno. Fissato col karate questo qua. Lì di arabi morti mi risulta che non ce n'è nessuno. No, di arabi morti non c'è nessuno. No, trasformare la piazza di Colonia in un grande ring vorrebbe il signor da no, Parma. No, lui dice perché nessuno ha reagito. Magari hanno reagito. Ma hanno reagito, che ne sai? Era lì il Capodanno, botti assediate da questi. Che devono fare? Va bene, Paola, Roma, dai. Incredibile. Io volevo dire due cose. Una che ha ragione... Crociani e Borghezio, cioè che quando i maschi, diciamo, in gruppo, anche in natura, si mettono insieme, sono tendenzialmente tutti stupratori. No, veramente io non l'ho detto, magari l'ha detto. Io non l'ho detto. Diciamo nelle situazioni. Ma io non credo. Ma non credo affatto che in questa cosa. No, in natura. Io stai tanti... dicendo una cosa incredibile. Stai dicendo che quando gli uomini si mettono in gruppo insieme. Sì, no, volevo portare un esempio che avvalorava questa cosa. Hai detto una cosa prima. Ma sentiamo perché può essere interessante. No, però voglio dire, è molto interessante. Nel 91-92 a Crema dei Lombardi. Erano cinque uomini durante il giorno per benissimo, uno il meccanico, l'altro era un commercialista. Ci sono casi, tanti casi di stupratori. La sera però andavano in discoteca e per circa un mese e mezzo, ricorderete che siete dei giornalisti in questo caso, si mettevano insieme e in gruppo, tal quale quelli che hanno stuprato la fontana di la barcaccia a Piazza di Spagna, cioè dei maschi insieme, tendenzialmente... operano molto più facilmente che le donne, diciamo tirano fuori i loro ormoni in maniera violenta. E su cioè tu stai dicendo che a prescindere dal nordafricani, islamici, eccetera, gli uomini in gruppo potenzialmente sono degli stupratori. Non solo degli stupratori, ma diciamo comunque io, molestatori, stupratori, quello che. Non solo, ma diciamo la mentalità per cui la figlia di una mia compagna di scuola, io sono nata nel 57, figlia di siciliani, il padre non voleva che si depilasse perché le donne depilate erano bottane e in Sicilia, Sicilia ancora io ero ragazzetta diciamo, potevano avvenire diciamo casi ma magari fosse passato per cui, magari fosse passato per cui, però per cui? È passato no, magari fosse passata l'idea di quel padre là, le donne depilate a me fanno schifo, vabbè pure a me gli uomini depilati mi fanno schifo, però diciamo al di là di questo e soprattutto diciamo c'è da considerare il fatto diciamo biologico e anche antropologico, per cui è vero che i nordafricani sono sicuramente più calienti dei lombardi, allora? Sono molto più diciamo hanno un erotismo che naturalmente può travalicare, quindi questo fattore qui a differenza di quelli della barcaccia che non so che fossero tifosi di quale nazione, ma certo non erano olandesi. Erano olandesi, diciamo anche loro a violenza di gruppo ne hanno compiute nel mondo di vario genere, però quindi io non dico che il problema è che se hai un sangue caliente puoi superare la vita, e allora il maschio. E l'ultima cosa, grandi complimenti a voi. Vabbè, il maschio, ciao Paola, Mohammed Catania, dai. Paola, ciao, Mohammed Catania, vai. Salve, no, io voglio voglio replicare su il signore prima che diceva è sposato con la marocchina, le è arrivato il marocchino avvocato. Cioè, io dico che queste cose non esistono completamente, ci saranno delle qualche faccenda così capitata, nel senso che qualche però come in tutto il mondo. Noi qua in Italia, se non vado errato, la prima comunità, la prima grande comunità è quella marocchina qua in Italia. E non mi sembrava che ci sono ogni giorno 100, 200, 300... Quello raccontava un'esperienza personale, racconti della sua famiglia, racconti all'interno della sua famiglia secondo i quali insomma i marocchini sono potenzialmente stupratori, questo diceva. Ma scusami, non mi puoi dire che un avvocato che viene da lui, ci sono delle cose ridicole, un avvocato che viene da lui, vede una che no, ma ha ragione. E dice ma questa come non c'è qua, ma ragazzi... Ma ha ragione Mohamed, tra l'altro mi ricordano infatti persone ben informate che nella ex Jugoslavia, tu dirai chi se ne frega, ci furono stupri di massa, mi scrivono giustamente, e come no, certo, perpetrati da ortodossi, cattolici, musulmani, cioè questo era quello che avveniva in quella terribile guerra. Quindi questa roba su base etnica, che è veramente vergognosa, questa cosa che ha messo in giro Borghezio, che non c'è dubbio che qualcuno ci crede, lo pensa, ma non è che se qualcuno lo pensa è vero ed è giusto continuare a dirlo, perché è una puttanata. Francesco, Siracusa, vai. Buonasera, Cruciani. Dimmi, Francesco. Allora, senti, io volevo dire questo. Parenzo continua con questa difesa d'oltranza. No, non c'è nessuna difesa di niente, ignorante. Nessuna difesa, adesso mi incazzo oggi. Non c'è nessuna difesa di niente. Non c'è nessuna... Difesa di che? Non ho capito, ragazzi. E lo dice un filo israeliano. Ma difesa di cosa? A difesa del mondo islamico. Ma non c'è nessuna difesa di nessun mondo islamico. No, lei la difende in maniera continua. Non difendo proprio niente. Probabilmente è pagato per fare questo, per sei pagato dalle banche arabe, sì, bravo. No, dire stupidaggini. È un povero coglioncello da quattro soldi. Piacere, Parenzo, lei è? A prendere dei soldi per fare incazzare la gente, probabilmente è un gioco di radio. Capisci? Non è pagato dalle banche arabe. Io dico quello, non stia a dire dico quello che penso e me ne fotto di cosa pensa lei, di perché faccia io dico le cose. Dico quello che penso. Faccia lei la persona seria, non mi rompa i coglioni. Lei è un poveraccio. Io non ho capito ancora qual è l'oggetto della discussione. Io difendo gli arabi. Lei rompe le balle in continuazione, non pensando a quello che pensa tutto il mondo. Tutto il mondo che c'è una differenza di fondo fra il mondo islamico e il mondo occidentale. Sono due blocchi completamente diversi mentalmente. Se lei non riesce cioè, tu stai dicendo, Francesco, che le cose che sono successe a Colonia non potevano essere, cioè non esistono gruppi di occidentali che circondano. No, non mi pare. Quello stiamo parlando, però. No, che c'entra? No, non facciamo di tutte le erbe un fascio. Non la buttiamo in caciara. Ma no, caciara, tu stai dicendo questo. Io sto dicendo che esiste una differenza di fondo per la cultura che contraddistingue la cultura orientale islamica da quella occidentale. Vabbè, ma questo qua, d'accordo, ma non è che c'è bisogno che ce lo racconti tu, vuole però. Capire, no, lo vuole capire. Anzi, cerca sempre di giustificare. Ma non giustifica niente. Ma ogni episodio, ogni cosa fa storia a sé, no? Non è che uno può dire. Ogni cosa fa storia può uno dire chiuso. I musulmani stuprano, i russi invece bevono la vodka e mangiano il caviale. Mi faccio dire questa cosa. E allora, che cosa sta dicendo? È un discorso statistico. Capisce, conosce la statistica? No, statistica. Non conosco la statistica. Che dice? La vado a studiare. La statistica. Può farcela con quel po' di intelligenza che vediamo. Può darsi che ce la faccia. Col suo aiuto ce la faremo senz'altro. Vediamo la statistica. Come si chiama sto minchione? La statistica di chi? Come si chiama sto minchione? Francesco. Il minchione di Francesco. La statistica di Francesco. Avanti con la statistica di Francesco. Ma che c'è? Dai, vediamo la statistica. mi ha rotto i coglioni questo. La statistica, non l'ho inventata io. Vediamo la statistica. Il 44,5% dice che il magrebino gli piace stuprare la donna con i capelli biondi. Il 42% invece dice che l'albanese stupra solo quella con i capelli neri. Il 32% dei cinesi stupra l'involtino primavera e lo usa per stuzzicare l'involtino, hai capito? Usa l'involtino primavera per stuprare il cinese. Mentre invece il rosso usa il caviale, stupra col caviale. Vabbè, ciao Francesco, ciao, ciao. Ma maggiori la statistica, va. Imbecille. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Allora, cambiamo un po' argomento, ragazzi. Adesso abbiamo come ospite un signore che è un assessore della città dove abito. Dunque, Parenzo, Milano, molto è importante. Bene. Perché comunque, no? Molto bene. Uno che ha amministrato la città, la mia città, certo, dove abito negli ultimi anni. Dove ho abitato anch'io a lungo. Il quale adesso vuole diventare sindaco. Vuole fare il sindaco, è normale, cioè uno che ha fatto un'esperienza. Cioè, io credo che a questo signore girino un po' le balle per un motivo. Perché uno dice: no, io ho fatto politica un sacco di anni, certo, ho amministrato una città, ho fatto l'assessore. Pensa, ovviamente, come tutti quelli lo che lo ha fatto anche bene, per quel poco che posso dire io non avendo lo so vissuto in quella città, conoscendolo da tanti anni, a mio giudizio. No, cioè, comunque lui pensa ha fatto bene, comunque però, lui carità, pensa di aver fatto bene e si vuole, sì, candidare come se. A un certo punto arriva dall'alto un signore. Vabbè, un signore. No, ma io sto cercando di capire perché un po' gli, sì, girano le balle, secondo me. Sì, arriva dall'alto un signore, sì, un po' non dall'alto. Beh, dall'alto dell'Expo, diciamo, dall'alto, ecco, dell'Expo, dai, dai, ci arriva un po' dall'alto anche della presidenza del Consiglio, diciamo. Ecco, quello anche possiamo dire anche questo. Un signore che dice: no, io però voglio, sono io che voglio amministrare adesso Milano, cioè a partire dal prossimo anno. Sì. E questo signore si chiama Sala. Dunque, questo signore qui, che è un assessore di Milano, un giovane che ha fatto anche, no, la gavetta, come si dice, secondo me lì girano un po' le balle. Però, insomma, adesso poi parliamo anche di altre cose. Pier Francesco Maiorino, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, ciao a tutti. Come stai? Come stai? Bene, bene, sono molto più tranquillo di quello che mi fai, eh? Molto più. Vai, un po', sto un sereno, po'. Sto sereno, come però, dice sta Renzi. Sereno, mi ha detto: Pier, stai sereno, io sto sereno. Allora. Che è assessore alle politiche sociali, alla cultura e pure alla salute del Comune di Milano. Beh, sereno però, no, io non credo che sei proprio così sereno. Cioè, secondo me avresti preferito, insomma, che poi, no, una cosa in cui Sala non c'era, o no? No, ma perché così è più avvincente. Io Sala lo sfido con grande determinazione, voglio batterlo e penso che le primarie siano belle per questo, perché poi dopo ci misuriamo sulle idee, sulle proposte, sui contenuti, così capisco anche quali sono le sue proposte per la città. Perché non l'hai capito ancora non l'hai capito? Ma non l'ho capito benissimo, però tra l'altro abbiamo domani alle 18 un primo, sì, abbiamo domani, guarda, alle 18 un primo faccia a faccia in un cinema, al Cinema Anteo, e lì vedremo di confrontare due idee di città che adesso, al di là delle battute, sono secondo me veramente molto alternative. Del resto io molto alternative, sempre all'interno del PD più o meno siete, del centro-sinistra, per cui non è che possono, sì, essere così alternative. Cioè, secondo te lui è uno di sinistra, come va dicendo in giro, innanzitutto? Ma questo, se lo dice, immagino proprio di sì. Diciamo, oppure è tutta una pantomima? No, vabbè, ma se lo dice io credo che ci sia da credergli, perché dubitarne. Sala l'ho conosciuto quando io facevo il capogruppo del PD all'opposizione in consiglio comunale, e lui era il city manager della Moratti. E poi dopo l'ho visto al lavoro, devo dire, anche in alcune cose positivamente. Però scusami, uno che ha lavorato... qual è la sua idea per il futuro di Milano. E poi quello vedremo. Ma uno che ha lavorato con la Moratti tutto questo tempo... poi può fare il candidato, è logico che faccia il candidato di centro-sinistra, cioè è normale, cioè, o no? Beh, intanto si candida alle primarie, ha raccolto le firme, cioè, avrà cambiato idea, candidato sindaco. Avrà cambiato... no, nel senso che nel senso che il candidato sindaco del centro-sinistra voglio esserlo io, perché no, io sì, il candidato sindaco non è che partecipo per il gusto di partecipare. Dunque non ti ritirerai? Perché chi lo dice che mi ritiro? Ma assolutamente, no, perché mai, anzi, sono ancora più di prima convinto di andare avanti. Senti, ma se tu dovessi scegliere invece tra la Balzani e Sala, chi sceglieresti? Ma per fortuna ho la possibilità di scegliere te stesso, di promuovere me stesso. No, ma al di là di tutto è chiaro che con Francesca Balzani ho più elementi probabilmente di sintonia sul piano così anche del lavoro che abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo in cui lei è stata assessore al bilancio a Milano, cioè e sei più vicino a lei, anche certo. Bene, anche abbiamo lavorato anche bene. Senti, io ti voglio chiedere una cosa, però al di là di queste cose poi abbastanza scontate, ma hai smentito di avere proposto un assessore gay? No, lui ha detto no, tu in realtà l'hai detto, poi ha detto un'altra cosa. L'ho detta male. Una persona espressione della comunità LGBT, là come si chiama, però una persona espressione di quella comunità lì vuol dire portatrice di quel mondo, di quei diritti, di quei valori. Non è che quelli propongono un eterosessuale, è chiaro che quella comunità esprime un omosessuale, no? Dunque, significa proporre un assessore gay, diciamola tutta, per Francesco, è così o no? Sì. Ma io ho fatto una proposta un po' diversa, poi mi sono un po' incartato, l'ho detto un po' male, l'ho anche precisata dopo, ma penso questo, che chi si è battuto per i diritti civili, chi si batte per i diritti civili in questo paese medievale, maturi una bella idea per il futuro di Milano. Cioè io penso che al governo della città, lo dicevate, no aspetta, perché è un ragionamento a cui tengo molto, cioè è o meno battersi per i diritti civili, per le libertà, anche proprio perché in relazione al proprio orientamento sessuale non si venga discriminati, una questione da portare al governo di Milano? Io credo proprio ma di sì. Ma sì, ho capito, questo d'accordo, ma che c'entra l'assessore? Ma che c'entra l'assessore omosessuale, lesbica, quello che è? Cioè, no, a che serve un assessore che sia sessualmente che abbia un orientamento sessuale di questo tipo? Servirà magari un assessore, se serve, che porta avanti certe battaglie, ma anche un eterosessuale. Per esempio, io sono a favore dell'adozione gay, del matrimonio gay alla spagnola, diciamo, molto più avanti di quello che stanno facendo in Parlamento adesso. Dopodiché poi sono eterosessuale, però, cioè non c'è bisogno di fare un assessore gay, è quello, quello che mi domando, sembrano quasi le quote. Sì, sì, ma infatti la quota gay è un'idiozia, io non l'ho mai proposta. E tra l'altro da assessore, no, non l'ho mai proposta. Hai proposto un assessore proveniente... parlare, perché sennò non riesco a spiegarmi. Io dico un'altra cosa, guarda, in questi anni sono anche molto orgoglioso di tante delle cose che abbiamo fatto a Milano. Ma questo che c'entra adesso? Abbiamo istituito il registro delle unioni civili, no, c'entra perché in tante di queste cose sono stato io il protagonista, assieme ad altri sono stato tra i protagonisti. Adesso dico una cosa in più. Tu dicevi prima, presentandomi, Maiorino che ha fatto la gavetta, ha fatto tanta politica, eccetera. Io penso che sia anche utile sul piano proprio della formazione politica e quindi dell'idea che si matura per il futuro di Milano, prendere anche qualcuno che venga proprio dai movimenti, che si batta per i diritti civili. Ho capito, ma questo che vuol dire? Quindi la quota gay. Ma è l'assessore gay, è la stessa cosa, non è che chi viene da quei movimenti non è la così. Chiami quota, ma lo Vabbè, chiami... ma ho capito, sarà uno come che vuoi. Ha fatto, che ha militato, perché non dobbiamo giocare sulle parole, perché sennò sembra che ci pigliamo in giro, no? C'è uno che viene dalla comunità degli omosessuali di Milano e che poi è omosessuale, però, che più o meno è la stessa cosa, perché altrimenti sembra che uno... comunque, hai detto una cazzata, dai, questa qua è... No, ma perché questo non è sbagliato? No, ma non credo di aver detto, l'ho detta male, ma guarda, io penso che non sia assolutamente sufficiente essere gay, perché un gay incapace, sì, ma non un gay preso dalla... Io mica lo voglio nella mia giunta. Ma nessuno voglio prende uno di quelli che si è battuto, per i diritti civili, e voglio questa cosa qua, voglio uno di quelli. Vabbè, ma un gay bravo, diciamo, un gay bravo, un gay capace, d'accordo, però. No, ma voglio non lo voglio solo capace, voglio una persona che in questi giorni sia indignato per il fatto che il Parlamento ancora una volta non approva neanche la legge Cirinnà, che è una legge, quella sulle unioni civili, per me moderatissimo, perché sarei come te per il matrimonio gay, punto. Cioè non capisco cosa stiamo discutendo ancora, sembra il medioevo, cioè nelle classifiche, certo. Sui paesi del mondo siamo all'altezza di quelli meno civilizzati sul terreno dei diritti, e voglio questa cosa qui, punto. Poi questa è la proposta, molto semplice. Senti, ma invece la cosa interessante che hanno fatto questa proposta dei 400 euro. sì, io la trovo una follia anche per quella. Per chi ospita migranti in casa, questo è un esperimento unico in Italia. Lui dice che si risparmiano dei soldi, ho letto da qualche parte, che si risparmiano del denaro. Però al di là di questo, scusa, ma ci sono altre cose, c'è tutta una rete di associazioni che si occupa di questa roba qua. Perché uno deve dare a una famiglia, provocando anche delle situazioni, secondo me, anche difficili poi da controllare? Anzi, il comune dovrebbe controllare esattamente come avviene questa roba. Una roba molto complessa, 400 euro a famiglia per ospitare un profugo, un immigrato, perché? Ma guarda, questa è una cosa che tra l'altro è stata fatta in diverse altre città italiane in questi anni, non mi pare che in nessuna di queste città, tra cui Torino, Brescia, Città del Veneto, sia scoppiata chissà che rivoluzione. È una cosa molto semplice: noi vogliamo aiutare le famiglie che vogliono darci una mano ad ospitare un gruppo di rifugiati, quindi si tratterà di rifugiati, non ho letto clandestini, roba così, no, proprio rifugiati, per un periodo di 6 mesi nella città. Questo mettendo a disposizione le loro case. È un esperimento. Io dico facciamolo e vediamo. Uno, quante richieste sono arrivate? Allora, chi dice quante richieste? Vediamo quali sono i suoi risultati. Quante richieste sono arrivate? Il bando è aperto, c'è un gruppo, insomma, c'è un gruppo di famiglie che si sta mettendo a disposizione, le stiamo selezionando. Ma quante però sono? Quante sono più o meno per adesso? Adesso il bando è aperto, non è che lo dico alla Zanzara quante sono, non è che posso violare le leggi. Leggi, è un bando aperto, quindi si sta, però c'è un gruppo di famiglie milanesi che si sta mettendo a disposizione. No, ma la domanda è chi però si oppone a questa cosa? Dice perché invece non si prendono iniziative? Vabbè, questa è una vecchia questione, no? Che riguardano gli italiani, la gente che sta male. Sì. Come si risponde a questi? Si risponde secondo me in due modi. Il primo, basta parlare dei poveri quando bisogna parlare male degli interventi sugli immigrati, perché poi tanti di quelli che fanno questa obiezione non muovono un dito, e lo dico da assessore alle politiche sociali, quando c'è da fare battaglie per aumentare le risorse sulle povertà. Primo. Secondo, il Comune di Milano mette già a disposizione oggi interventi per 27 milioni di euro all'anno per la lotta alla povertà. Quindi già facciamo delle cose per i poveri. Già facciamo è delle il Comune cose. D'Italia che fa questo. Io penso che dobbiamo fare ancora di più a proposito del futuro della città. Secondo me a Milano dobbiamo, in un paese fermo anche su questo terreno, dobbiamo sperimentare l'introduzione del primo reddito minimo comunale d'Italia. Il reddito minimo comunale. D'accordissimo sul fatto che la questione sociale delle persone in difficoltà divenga l'ossessione positiva di questo paese. Senti, ma su questo piano, non lo vivo in contrapposizione con gli interventi dei rifugiati, che sono un'altra cosa che non c'entra niente. Ma la Lega è un movimento razzista, secondo te? Beh, diciamo che ogni tanto cavalca i peggiori istinti del paese e legittima. Cioè, se Milano tornasse la cultura dell'odio. Se Milano tornasse in mano alla Lega, sarebbe una sarebbe cosa hanno già dato. Sono stati 20 anni al governo della città e ci hanno lasciato 186 milioni di euro di buchi. E a proposito di politiche sociali, noi abbiamo aumentato rispetto agli interventi che facevano loro, ad esempio del 35%, le risorse riguardanti gli interventi rivolti alle persone con disabilità. Vabbè, però è un tema importante. Ognuno può rivendicare poi i propri numeri. Sì, ma io rivendico i numeri e le cifre, non è che rivendico solo le idee, quelle sicuramente. Però anche i numeri, i fatti, no? Va bene, ciao, grazie, ciao. Grazie, ciao. Allora, Maurizio, provincia di Cuneo, dai. Ecco, no, io mi volevo rifare un po' al discorso degli stupri, no? Comunque presunti. Allora, intanto, premessa, questi istinti animaleschi li hanno avuti anche le civiltà anglosassone nel momento in cui poi sono andati a Sì, ma ragazzi, però non dobbiamo girare intorno a una cosa. Non possiamo non ci giro attorno, ma non possiamo mancano non si può dire che c'è una peculiarità magrebina per lo stupro. Per l'Islam le donne sono inferiori. Faccio l'esempio di quella coppia che è stata beccata a Genova con due passaporti falsi. Cazzo, noi li abbiamo rimpatriati. Ma come cazzo si fa a rimpatriare? Ma noi dobbiamo dare un segnale forte, dobbiamo dire, cazzo, i due passaporti, allora sappi che con queste cose non è che ti rimpatrio, tu stai in galera. Ma non siamo nemmeno riusciti a mettere in galera, a trattenere in galera uno scafista, cioè non mi ricordo dove, a Treviso, cioè con la gente, giustamente con qualche politico, con qualcuno delle istituzioni incazzato. Cioè uno scafista per motivi burocratici, l'altro giorno è stato scarcerato, uno che è provato che sia uno scafista. Fermi là. La Zanzara. Zanzara, Uakbar, Zanzara, Uakbar. Parenzo Akbar, Parenzo Akbar. Gruciani Uakbar, Gruciani Uakbar. Halla, andate al bar, halla, andate al bar. Caro Parenzo, vorrei informarti di alcune cose. Vediamo. Allora, sulle feci, sulle feci. Aia. Perché no, ho ricevuto una un interessante libro, saggio, sulle feci dell'uomo. Ci sono alcune cose che non sapevo. Non ti molto... regalano libri di Bernardo Levi? No, per fortuna no. Allora, no. Le feci consistono innanzitutto da, per tre quarti d'acqua, lo sapevi? C'è la tua merda acqua? Quando la fai, per tre quarti acqua. Sai, non mi sono mai interrogato su quello che usciva dal mio corpo. È interessante, però... per tre quarti, quando caghi, quello che cade in terra, quello che in terra, no? Insomma, perché qualche volta ti sarà pure capitato di cagare in terra, però insomma, no, quando in caghi terra. Nel bagno, i ma tre dove quarti... sei vissuto tu? Vabbè, qualche volta... Ma poi parlate no, ma in un bosco, dico, in un bosco. In un bosco? In un bosco, beh, qualche volta per urgenza, magari sì, uno l'ha mi fatto. Mi è capitato in qualche, una volta in qualche quando gita, ero sulle no? nevi a Madonna di Campiglio, ero un ragazzino, avevo pera. E a un certo punto avevo mal di pancia, mi sono infilato in un boschetto, sì, con grande imbarazzo. Poi ci sono le componenti solide. Un terzo delle componenti solide sono batteri. Ma questo perché dovrebbe interessare l'ascoltatore? Aspetta. No, non interessa capisce. Moltissimo. Un terzo ancora delle componenti solide, no? Delle componenti solide di un pezzo di merda, è costituito da fibre vegetali non digeribili. Fibre vegetali non digeribili. E più verdura o frutta mangiamo, questo è molto interessante per i signori vegetariani, eccetera. Più frutta e verdura mangiamo, più i mucchietti saranno voluminosi. Capito? Cioè, dai normali 100 o 200 grammi di escrementi al giorno, si può passare tranquillamente a produrre anche 500 grammi. Cioè, frutta e verdura fanno cagare di più. Questa ma pensate. Allora, l'ultimo terzo dei componenti solidi, ok? Cioè. Tre quarti acqua, quel quarto che rimane, un terzo è batteri, poi fibre vegetali non digeribili, quindi l'ultimo terzo, c'è una serie di cose che, di cui l'organismo vuole liberarsi, per esempio, che ne so, rimasugli di farmaci, pigmenti, colesterolo, eccetera, robaccia, frattaglie. La cosa interessante invece, questo è il quadro generale, no Parenzo? Sì, ti ho fatto sì, un quadro generale. Sì, una, la cosa, un fresco globale. Globale, sì. Sì. La cosa beh, invece molto, molto importante. Molto. Molto importante è la consistenza. Ecco. Questo lo sai che anche tu la guardi la consistenza e ti preoccupi in alcuni casi, no? Non passo delle ore a contemplarla, ma se capisco che c'è qualche problema vado a fare quella che si chiama analisi. Esatto. Ma tu non sapevi, è mai successo tu sapevi che c'è una scala delle feci che si chiama scala. Una scala? Sì. Si chiama la scala delle feci di Bristol. No, questo... di Bristol. Ah, addirittura Bristol, degli studiosi a Bristol, ottimo, stupendo. Autorevole università. Bene. La scala delle feci di Bristol. E che cosa hanno scoperto? Che è stata realizzata da un medico inglese che si chiama Eaton. Molto bene. Allora, analizzatore di merda, sostanzialmente. Allora, tutti voi dovete con molta calma analizzare stasera la vostra merda quando andate in bagno dopo cena o prima di cena. Ma, sì. Ma perché e dirmi a che tipo appartiene. Ci sono sette tipi. Ci sono sette tipi possibili. State capito, molto attenti anche in tempo reale, anche adesso. Tipo 1. Palline separate tra di loro, dure come noci, difficili da espellere. Palline separate tra di loro, dure come noci, difficili da espellere. Che significa questo? Questo è molto grave, questo è molto grave. Palline come noci, oh, palline come noci. Ma che significa? Come quelle delle capre, praticamente. È molto grave. Esatto, bravo. Ecco, ma che significa? Significa è molto che grave, stai, è molto grave, stai male, disallarma. Stai molto male in questo caso, stai molto male. Tipo 2. A forma di salsiccia, cioè il pezzo di merda esce a forma di salsiccia, ma grumose, tutte grumose. Mi viene, guarda. Tutto grumoso. Tipo 3, attenzione. Ma uno non è che se le può leggere per i fatti suoi, deve per forza ascoltare la radio 24. A forma di salsiccia, interessantissimo, anche gli imprenditori cagano, anche la gente, no, intorno a Confindustria, anche il signor Squinzi andrà al bagno, no, immagino, no, adesso con tutto il rispetto. Beh, questo no, lo auguriamo a tutti di andare. Appunto, lo auguriamo, assolutamente. No, ma no, a lui nello specifico, a chiunque, da Mario da Mantova fino fino a Donato da Varese, sì, a chiunque sì. Tipo 3. Quelli potremmo augurare di farle come le noci, però non lo vogliamo fare. No. A alcuni potremmo tranquillamente augurare di fare come le noci. A qualcuno, a qualcuno. Allora, tipo 3 è a forma di salsiccia ma con crepe in superficie, a forma di salsiccia ma con delle crepe in superficie. Questo sempre il professore di Bristol dice. Sempre il professore di Bristol, La classifica, cioè la scala. Tipo, la scala, 4, la scala. Tipo 4, a forma di salsiccia. Una volta c'era la scala Mercalli, adesso c'è la a forma scala. Di salsiccia o serpente, lisce e morbide, come un dentifricio praticamente, come un dentifricio. E qui siamo nel campo della normalità. Bene. Tipo 5, pezzi morbidi separati tra loro e dai bordi ben definiti. Tipo 6, pezzi soffici dai bordi frastagliati e pastosi, capito? Cioè dei pezzetti soffici, molto soffici, ma dai bordi frastagliati e pastosi. E si va verso il tipo 7, l'ultimo tipo. Feci acquose senza pezzi solidi, completamente liquide, la famosa diarrea, insomma, come è chiaro che sia, no? Va bene, non abbiamo ancora finito, non abbiamo ancora finito, perché l'altro test fondamentale è il test sul galleggiamento. Questo è un test già abbastanza importante, no? Perché insomma, se ti escono dei pezzi di noci così che ti fanno anche male, devi andarti a fare dell'analisi, ti devi preoccupare, anche se ti esce la diarrea, ma questo è abbastanza chiaro. Il galleggiamento, io questa è una cosa che non sapevo, perché sulla consistenza tutti possiamo intuire che c'è una consistenza più o meno normale, una consistenza invece che magari può essere provocata da malattie o cose che hai mangiato strane. Il galleggiamento è molto importante, Parenzo, molto molto importante, capito? Cioè tu devi stare attento a vedere quanto impiegano i pezzi ad affondare nell'acqua. Allora, quando c'è pericolo? Quando è che c'è pericolo? Il pericolo c'è quando le feci raggiungono immediatamente il fondo della tazza. Ah. Capito? Ah, però. Le feci non dovrebbero raggiungere immediatamente il fondo della tazza, perché in tal caso può essere che contengano ancora troppe sostanze non del tutto digerite. Capito? Capito? Se invece gli escrementi non affondano così in fretta, significa che contengono piccole bolle d'aria e che li fanno galleggiare. Bene, quindi. Cioè, se galleggiano, bene. Se non galleggiano e raggiungono subito il fondo, beh, è un problema. Dopo questo credo che potremmo concorrere a fare una radio di servizio pubblico, perché piccolo trattato sull'intestino. Sì, ma non è giusto che il servizio pubblico sia solo la RAI. Anche noi con questo possiamo, come dire, entrare in gara e contribuire, no? Assolutamente. A diventare servizio pubblico. Maddalena da Roma, buonasera. Senti, non vedo che è una serata già abbastanza di merda, non volevo metterci anche il commento mio, però mi ha colpito un quarto d'ora fa un ascoltatore che aveva detto una cosa che mi ha lasciato agghiacciata sul fatto degli stupri, che gli africani stuprano perché non ci sono le mignotte in Africa, no? E lei è rimasto anche abbastanza così, quasi affascinato dal... A parte che non è vero che in molti paesi la prostituzione c'è, nascosta magari. Ma infatti ne dubito fortemente anch'io che non ci sia, ma che questo sia il presupposto per dire che chi non va a puttane deve avere una vita sessuale deviata o che si debba comportare in questa maniera, cioè ma nessuno l'ha sostenuto. Io invece sono abbastanza convinto. Quell'ascoltatore sì. Sono abbastanza convinto che l'esistenza della prostituzione, che ne dica Parenzo eccetera, che vorrebbe eliminarla e cacciarla, e come no, spazzarla via dalla faccia della terra, penso che la prostituzione sia un grande sfogo anche capito, non solo. Ma una vita sessuale normale no, non è possibile. Ma sì, anche quella, certo, c'è gente che ha una vita sessuale normale, ma ho capito, ma se uno invece vuole avere una vita sessuale diversa, perversa, vuole andare a prostituta, no, però, qual è il punto? Sì, però aspetta, cioè voi uomini tendete ad avere questo punto di vista abbastanza allucinante, che è normale comunque andare a puttane, perché non è quasi come se non fosse normale avere una vita sessuale tranquilla, cioè signora, non è che Maddalena, devi andare a puttane per... cara Maddalena, lei ha mai frequentato uomini che sono andati a puttane? Ah, non glielo ho chiesto. Beh, ma non penso lo sa. Di sì. Magari lo sai, magari te l'hanno detto. No, ma io non lo voglio neanche sapere, perché siccome è un argomento che mi mette tanta tristezza, perché cioè quello vedere anche. Mi mette tanta tristezza, perché vuol dire non essere capaci, come io non sono mai andata a pagare uomini per fare sesso, ma io sono una donna, quindi evidentemente non so. Si potrebbero aprire dei bordelli sessuale minore. Si potrebbero aprire dei bordelli per, no? Dei bordelli per donne? Per donne. Mi fa schifo, ci sono, sì, già, mi farebbe forse schifo, non ci andrei mai, ma cioè, si può fare forse queste tante. Cioè, tutto, no, è lecito, no, tutto è lecito, ma io non ci andrei. Ma lì c'è il problema anche della prestazione sessuale dell'uomo. Come non andrei con un uomo, come non andrei con un uomo che, per dire, scopa con una donna ogni 10 secondi e mezzo, perché mi fa un po' senso l'idea di questa promiscuità selvaggia quasi, mi dà fastidio questa cosa. Ti dà fastidio la promiscuità, ti dà fastidio, eh? Sì, esagerata sì, esagerata sì. Esagerata, e anche il fatto che, dire, anche il fatto che un uomo possa anche pensare che se uno non c'ha i bordelli a portata di mano possa essere talmente agitato e isterico da andare in giro a molestare le donne. In Italia poi un ascoltatore italiano che dice una cosa del genere, sinceramente penso che anche qui c'è molto da lavorare, eh? Certo. Vabbè, Maddalena, ma io voglio dire, tu hai una vita sessuale normale? Sì. Regolare? Sì. Che vuol dire regolare? E che vuol dire regolare? Regolare nel senso che non sono disperata e non vado in giro cercando, mendicando sesso. Si ritiene soddisfatta, dai, mi sembra, esatto, evidente, tranquilla, certo, soddisfatta, va suo rosso quando vuole. Con un marito, un compagno, che ne so. Ma non lo so. Certo, da tanti anni. Da tanti anni sempre lo stesso, no? Non sempre sei, lo stesso. Non ti sei annoiata, no? Mai, mai. Non ti sei annoiata. Mai. Non hai voglia di cambiare. I coglioni si annoiano, secondo me, perché il sesso non è una cosa che si fa in una maniera e basta, si può fare in tantissimi modi, quindi per me i coglioni si annoiano. No, i coglioni quelli non sei, ho capito un'altra. Gli stupidi, gli sì, no, stupidi, no, no, perché ho capito. Il sesso si presta a tante di quelle cose che, anzi, secondo me, approfondire la conoscenza anche fisica con una persona è ma non ti viene, che, non altro ti viene, che le puttane, altro che le puttane. No, ma ho capito, ma non ti viene qualche volta no, la voglia, il brivido della, no, di cambiare, no? L'odore diverso, no, la pelle, no? Qualcosa, no, di no, magari posso pensare che di trovare un uomo attraente, ma non è, no, non, no, no, perché so benissimo che molto difficilmente sarebbe meglio che con che beh, come con il mio compagno. Bah, e qui, no, perché poi devo rimettere in gioco tutto quello che ho costruito e che mi piace? Non vale la pena per scopare. Per me non vale la pena. Va bene, Maddalena, ciao, ciao. Generoso da Grosseto, vai. Buonasera. Generoso, vai, dimmi. Innanzitutto vi faccio i complimenti perché quelle poche volte che sono in Italia, perché lavoro principalmente all'estero, non ho la possibilità di ascoltarvi, ma in Italia quando posso vi ascolto. Va bene, vai. Vado sul sito, può farlo, sì, scaricarlo, on demand. Ma in Cina non è semplice collegarsi a internet perché la rete è molto lenta. Perché però lì volevo... c'è il regime, c'è, amico mio, c'è il regime. Sì, una cosa si chiama, sì, regime. Sì. Ecco. E infatti stasera, a parte il regime, il prologo intestinale era forse quello più adatto dopo aver parlato della Boldrini, perché è veramente vergognoso. A parte mi ha sconvolto il fatto che Borghetti stasera è stato democratico, perché di solito è tutto tranne che democratico, però stasera mi ha stupito. Però beh, guardi che ha detto quello che doveva dire, cioè, ha detto che... Però di solito è più diretto, di solito è molto più aperto. Più di così non so cosa si possa dire, più di così. Cioè, si possono dire tante cose. Ma possono più di dire, quello? Ad esempio sul fatto... Sì, sì, sì, sì. Più di dire, allora, che esistono gli stupri su base etnica. Io parlo sempre in merito a quello che ha detto sulla Boldrini. Non parlo del discorso dei, vabbè, dei dimmi, dai, di colori. Cosa io, perché ti fa schifo la Boldrini? Ma perché mi fa schifo è un discorso proprio di incoerenza, che questa maestrina, insomma, che poi uno la vuole definire maestrina oppure non lo so, una provincialotta, perché alla fine si parla di, cito il testo del giornale di stamattina, lei ha scritto solo mancanza di rispetto sulla base di un episodio che è successo a Colonia, no? Sì, sì. E alla fine questa qui, questa maestrina, cosa ha fatto? Ha definito i grillini dei potenziali stupratori. Sì, me lo ricordo, come no? Ha fatto una guerra sul fatto di essere chiamata il presidente, la presidente, e poi su un fatto di Colonia lei glissa, la presidente, perché sì, poi sì, se la chiami il presidente poi dopo si offende, no? La provincialotta. E dice no, solo mancanza di rispetto. Ma di che cosa vogliamo parlare? Sì, ha aggiunto un'altra cosa, mancanza di rispetto e di violenza in alcuni casi. Diciamo che è stata troppo attenta ai dettagli e soprattutto non ha citato una cosa fondamentale, che trattasi di profughi, rifugiati, extracomunitari, quelli che hanno circondato donne tedesche. Questo è il punto. Tutto perché poi uno se vuole negare questa cosa la può anche negare, ma la realtà è questa. Cioè, sì, poi uno sì, non sì, la può spiegare alla Borghezio che parla appunto di proprietà propensione allo stupro da parte dei nordafricani e forse anche degli islamici, può dire che questi qua sono assetati di sesso perché non trovano sfogo nella loro vita quotidiana. Però il fatto che siano siriani e in parte anche nordafricani, come sembra, non è un caso. Non è che ci sono gruppi di cinesi che circondano donne italiane o donne tedesche, cioè questo è un dato di fatto. Poi uno se lo può spiegare in mille modi, però negare questa roba qui, come fa la Boldrini e come fanno altri, che negano anche il solo fatto che questi qua siano nordafricani, è ridicolo, cioè perché è come non guardare in faccia la realtà, cioè questo è il punto, o sbaglio, Generoso? Io entro in merito al discorso di una sola cosa, è questa persona che rappresenta milioni di italiani, no? Nel suo ruolo dovrebbe rappresentare milioni di italiani, ed è la massima concentrazione dell'incoerenza. Perché al di là di quello che diceva Borghezio o meno, lei ha definito i grillini, che comunque è un movimento politico, io non sono un grillino, quindi sono super parte. Sì, me lo ricordo. Sì, dei potenziali stupratori. Sì, per quello che c'era nel blog. Davanti di Grillo, a delle interviste di donne, e io poi arrivo al dunque di questa telefonata, no? Al dunque, sì. Io domani mattina, se fossi una donna, la prima cosa che farei, sentendomi offesa, andrei sotto al suo ufficio a protestare. Dice, ma scusami. Vabbè, ma adesso protestare sotto l'ufficio non c'è tempo, ma chi se ne frega? Sì. Scusi, ma alla fine, Cruciani, tu devi essere anche obiettivo. Allora, la frase della Boldrini è questa: le persone che si sono permesse questi atti di mancanza di rispetto, anche violenti, ne rispondono davanti alla giustizia. Uno potrebbe anche rispondere, vabbè, te credo, sti cazzi. Ha detto scontata. Anche la Merkel, non c'è bisogno. Dai, fermi. Volevo sapere una cosa solamente. Dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? La Zanzara. Siete due bastarde nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltare. Tanto per cominciare. Berlusconi sul golpe, basta parlare di golpe. Sì, abbiamo capito, sei l'ultimo presidente del Consiglio eletto, per carità, sicuramente qualcuno ha tramato dietro di te per farti cadere, diciamo che un buon contributo l'hai dato pure tu, caro Silvio, ma questa, no? è la sua fissa, il golpe, basta, il è la golpe. Cosa che lo ossessiona. Dai. Di più, in Italia c'è una grave emergenza, un'emergenza drammatica che riguarda tutti noi e che purtroppo molti non vedono e di cui nessuno parla. Mi riferisco alla sospensione della democrazia nel nostro paese. La sospensione della democrazia. Sembra Travaglio quasi, no? Cioè, dice più o meno la stessa cosa, no? Beh, più o meno, sì. Cioè, la democrazia sospesa, no? L'autocrazia di Renzi che vuole, no? Che si vuole prendere tutto, eccetera, eccetera. No, la responsabilità di Napolitano sono enormi, la responsabilità di Scalfari pure. Sono stati i quattro colpi di Stato che si sono realizzati in Italia negli ultimi 20 anni, sono stati tutti con la complicità della più alta istituzione dello Stato. Poi si è pure sbagliato. Cioè, sembrano voci che vengono, per carità, era una telefonata, credo un'intervista a una televisione pugliese. Una telefonica, perché sembrano mai... Devo dire la verità, lo dico anche con... Non dico con affetto, no, perché non l'ho mai conosciuto personalmente, ma sembra ormai quella di Berlusconi veramente una voce che viene dall'oltretomba. Cioè, una roba passata, vecchia, superata, forse era sotto il 10%, lui che sta cercando di salvare il salvabile. Una cosa incredibile. Sbaglia Scalfari, ma è Scalfaro, chiaramente. Il golpe... Poi dice a un certo punto che Berlusconi chiederà a tutti gli iscritti Forza Italia, perché io vorrei capire una cosa, ancora c'è gente che si iscrive ai partiti, primo, e in particolare a Forza Italia, c'è qualcuno che va là e prende la tessera di Forza Italia, guarda che è incredibile, cioè, bisognerebbe... No, io li vorrei conoscere, c'è uno che va là oggi e fa una... Io posso capire che prendi la già per me è una follia prendere la tessera di un partito, però tu vai... No, perché prendere la tessera, dai un contributo, non è che prendi la tessera. Se vuoi dare i soldi a un partito, cioè ormai si può fare attraverso la dichiarazione dei redditi, dai dei soldi a un partito. E vabbè, d'accordo. Questo lo posso capire, per carità. Ma ci sono persone che credono che ancora nelle iscrivono l'iscrizione. Ma ci sono ancora persone che pensano. Ma perché? Ma ti fa così strano? Questo è il bello, ma invece, dai, persone che vogliono partecipare, iscriversi, lottare, fare politica, distribuire volantini. Ma non c'è bisogno di iscriversi, iscrizione ai partiti. È una testimonianza di adesione a un movimento di autofinanziamento. Anzi, bello questo, perché è un modo per finanziare con la tessera, tu finanzi. Senti il partito. Senti che dice, tutti quelli agli iscritti di Forza Italia dovrebbero fare servizio sociale volontario. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Io ho in mente anche di chiedere a tutti gli iscritti di Forza Italia, dai dirigenti ai simpatizzanti, un impegno concreto a favore di chi soffre, di chi è in difficoltà, un servizio sociale volontario a favore di chi ne ha più bisogno, dagli ospedali per bambini alle mense per i poveri che stiamo organizzando di allestire in alcune città. Cioè, allora Berlusconi dice, tutti gli iscritti, uno già si iscrive a Forza Italia, in più Berlusconi dice, senti, tu sei iscritto a Forza Italia e in più devi fare un servizio sociale volontario. Ma ah, ragazzi, dai, insomma, che follia è, dai. Allora, voglio riprendere alcune dichiarazioni di Feltri prima della sosta da noi, quando ha detto che il vero rottamatore è Renzi. No, il vero non è Renzi, il vero rottamatore è Berlusconi. È Berlusconi, sì, senti, sì. Senti. Sì. L'unico grandissimo rottamatore è stato Berlusconi, che senso, ha battuto Renzi 6-0, punteggio tennistico, perché Berlusconi ha sì fondato e costruito un partito, Forza Italia, ebbene è riuscito a demolire non solo il centrodestra, ma ha demolito anche Forza Italia e addirittura è riuscito nell'impresa difficilissima di demolire se medesimo. Renzi vicino a Berlusconi sul piano della demolizione è assolutamente un piccolo dilettante. Cioè, il vero rottamatore alla fine è Berlusconi, certo, che ha demolito tutto. Ha demolito e lo ha dimostrato. Beh, Mediaset è ancora in piedi, Beh, con qualche... beh, però è avviata bene, diciamo. Ha avviato la demolizione. No. Ha avviato anche lì la demolizione. Non è un animalista, non lo è mai stato. Poi, cioè, Berlusconi non vuole bene neanche alle persone, figurati se il popolo è bene dei cagnoli. Ah, è uno che non vuole bene, dici? No, assolutamente, vuole bene a se stesso, giustamente. Ragazzi, andiamo a Milano. Francesco, vai. Pronto? Dimmi, dimmi. Volevo tornare sul discorso interessante delle feci. Sì, perché, sì. Insomma, è interessante. Sì, ma è la roba più interessante, dai. Cioè, come si caga, come ci si pulisce. No, no, però... Quello che si fa nella propria stanza da letto, quello che si fa in bagno, quello che si fa a tavola, però, sono le cose più interessanti, non Feltri, Sallusti, no, non Feltri feci, quanto Feltri. Le feci si possono anche trapiantare. Cioè, in che senso trapiantare le feci? Trapiantare, esiste una pratica medica, non banale, per alcune malattie intestinali particolari in cui si fa il trapianto di feci. Ed esistono i donatori. Che vuol dire il trapianto di feci? Non ho capito. Adesso vi spiego. Cioè, lei ha detto una cosa interessante a proposito della classificazione. Cioè, le feci sono un terzo delle feci sono batteri. Ecco, questi batteri possono essere negativi, positivi, possono creare. Vabbè, allora? Malattie. Allora, per ovviare a questo, si possono usare antibiotici o trapiantare le feci. Cioè, si prendono delle feci buone, sì. Ah, sì, sì, sì. E si inseriscono per via orale o per via anale, cioè anterograda, allora? O retrograda. E questo non pare, insomma, ci sono mai dati che sembra che migliori molto la situazione. La cosa interessante è che si stanno proprio stabilendo i donatori. Cioè, non ho capito. Ma uno perché dovrebbe donare? Io non capisco, no, cioè, questo. Il trapianto di feci a che serve concretamente? Serve a cambiare i batteri intestinali cattivi che procurano queste malattie, sì. Possono essere anche gravi, con batteri buoni. Cioè, stai dicendo che le feci servono come praticamente come una medicina? Come una medicina, esatto. Ma tu sai, Parenzo, che esistono pure delle pastiglie, mi sembrava una bufala, però in realtà sono andato a controllare, che si vendono su eBay, eccetera, che si chiamano glitter, non so come, che servono a fare la cacca dorata. Cioè, sono una specie di pasticche e uno se gli fa schifo il colore, se gli fa schifo, ma diciamo... perché uno dovrebbe colorarsi? Cioè, io capisco colorarsi le unghie. E devi guardi la tua cacca e invece di vedere la solita merda che c'è dentro la tazza quando tu caghi, in realtà guardi una cacca diversa, che ha un colore diverso, un aspetto diverso, come se... E questo perché? Perché è più bello alla vista, diciamo. Ma perché uno poi cosa fa? La mette nella mensola? Non riesco a capire queste persone. No, perché è più bello alla vista. Visto che poi finisce nel flusso dell'acqua, no? Fa schifo vedere, no, la massa indistinta, eccetera. Invece tu vedi un'altra cosa, vedi l'oro, vedi l'oro. Io non so quale mondo come se vedessi dei dobloni d'oro. Tutto, ma appena uno la fa, io in genere, guarda, con delle paillette, con delle paillette. La regola d'oro è quella che appena, a meno che tu non odi la persona con cui stai nella stanza, allora in quel caso lì devi lasciarla il più tempo possibile a galleggiare. Sì. Sostanzialmente. Cioè, se sei antipatico quello con cui condividi la stanza, la regola aurea è quella di lasciare lì la cosa col coso possibilmente aperto e la porta del bagno aperta. Vabbè, quello però se ne accorge subito. No, magari lui è uscito momentaneamente, tu lasci aperto finché l'odore. Altrimenti tra persone normali come si usa? Tra persone normali si usa che appena fai subito tiri l'acqua. Sì, lo sai, qualche volta mi è successo anche di recente di dimenticare questo momento perché ero sovrappensiero. Mi sono alzato, mi sono pulito e ho lasciato. Dopo un po', anzi la sera magari, lasciavo tutto il giorno. La sera torno a casa, ogni tanto sento che puzza, ma che è sta mamma roba? Ma sai che sei veramente però vado in bagno, ma sai che sei veramente ma sei strano veramente. No, ma vado in bagno e la prima cosa che e vedo sai quando ma tu sei proprio una sai quando persona, la pelle rimane lì da ore, no? Da ore. Ma perché una brutta persona? È una dimenticanza normale. Ma uno che si dimentica quelle cose e c'è lì, una specie di rimasuglio strano perché bisognerebbe fare delle foto. Ma dove vivi? Ma poi dici dei rom. Ma io non lo so, ma cosa? Ma dove vivi? Ma poi dite dei campi rom, della puzza, ma dove vivi? C'è una puzza quasi da campo rom, sì, quasi da. Tu, ma dove? No, ma poi ti lamenti degli altri, ma dove vivi? Ma cosa fai? Mi sono dimenticato di tirare l'acqua. No, dimenticato di tirare l'acqua. E quel povero uomo che viene a pulire da te, quel cinghialese. No, quel giorno lì, magari non è venuto. Avvelenato, no, quel giorno non è venuto. Io torno la sera a casa. Ogni tanto poi non è che te ne accorgi subito perché non è che vai in bagno. Ma fa schifo questa senti cosa, un odore strano, sai di quella roba che si deposita da tempo. Ma io mi vergognerei anche a raccontarlo. Io racconto perché che mondo racconto vivi tutto. Ma tutte queste donne ma come fanno quando vengono lì? Ma che schifo, ma che porcheria. Va bene. Stefano da Messina, dai. Stefano. Non va bene, fa schifo. Dai, una vita di comunque veramente sei peggiorato. Cioè, una vita degradata. Stefano da Messina, dai. Stefano. Fate schifo. Male. Sì, lasciatevelo no, dire. Fate. Vai Stefano, vai. Sì, allora fare un augurio di buon anno a Parenzo e augurargli, però davvero con una punta di non di ironia, non mi insulti subito, lo prego. No, di avere un'esperienza prego, di stupro di in famiglia, una cugina, una parente. Grazie, da parte grazie di dell'augurio. Una, da parte, no, te lo meriti. Grazie dell'augurio, Stefano da Messina. Grazie dell'augurio. Sempre. E come diceva l'ascoltatore di prima, e non lo fai parlare perché poi butti in caciara. Ma lei può chiamare e augurarsi una cosa simile? Sì, perché tu te lo meriti. Lei è un imbecille. Per te è io uguale. Le dico con perché grande serenità che lei è un povero idiota. Non è vero. Tu ma non è vero. Ma Stefano, tu non puoi chiamare, non ti puoi augurare lo stupro di qualche familiare di Parenzo. Allora, dai. Allora facciamo così, cambiamola. No, cambiamola, mantienila, abbi il coraggio di mantenere quello che hai detto. Io la mantengo, però poi lui va insulti, quindi facciamo no, perché, una pulita. Ma perché lei è stato gentile, non l'ho capito. Ospita qualcuno. È bello che insulta lui poi. Cioè guarda che è incredibile. Io dico che Stefano da Messina. Ma guarda, le spiego il suo ragionamento. Lei chiama, no, Stefano da Messina, lei chiama e dice, io dico, guarda, non voglio insultarla, Stefano da Messina è una testa di cazzo. Ma non voglio insultarci, come mi ha appena detto testa di cazzo. Però la prego, non mi insulti, testa di cazzo. Ma, cioè, le sembra normale dire così. Io non voglio dire niente a Stefano da Messina. Gli auguro di tornare a casa e trovare la moglie a letto con tre suoi amici. Ma non lo sto insultando, Stefano da Messina. Mi auguro che quando chiude la zanzara torna a casa a Messina, bussa e trova sua moglie con tre amici suoi del calcetto. Ecco, io glielo auguro, ma non la sto insultando però. Mi auguro di trovarla a letto con tre suoi amici. Capito? Mi fai parlare un attimo. Questo glielo auguro, attimo, no, perché questo è il modo l'altra cosa. Di ragionare. Cosa. Ospita un qualcuno a casa tua. Fai un cenno, fai una ma volta, tua moglie ospiterò volta a casa mia a questo punto. Come? La tua fidanzata ospiterò a casa mia a questo punto. No, devi ospitare si fidati che ti senti sempre. Che ti senti sempre. completamente. Vabbè, passa sempre questa cosa che difende gli islamici. È vero. C'è poco da fare. Ospita qualcosa tua. Se c'è un campo rom contro la tua, che fai? Cosa fai? Vabbè, ma non ho capito perché ti auguri che qualche familiare di Parenzo sia stuprato. Perché solo così può capire il dramma, quello che può capitare. E queste persone, quello che fanno qui in Italia, tutti, la maggior parte, dico, non voglio generalizzare. No, vabbè, non voglio generalizzare. Tutti, ma non voglio generalizzare. Ma non voglio insultare, però quello è un coglione. Non voglio insultare, però. Non voglio generalizzare. Come Parenzo, ma infatti anch'io non voglio generalizzare. Okay. Torna a casa, trovi tua moglie con tre amici. Borsa. Tuoi. Lei è offensivo. Lei semina odio. Lei semina odio. La Zanzara. Io vorrei sentire una cosa. Quando la chiudi questa trasmissione? Allora, mai. Mette l'anima in pace, però non si può sentire più, dai, se può essere. Mamma mia. È una cosa indegna la sua trasmissione. Allora, Razzi colpisce ancora dopo la Zanzara ieri sera, questa mattina da Belpietro, canale 5. Come ha detto l'America, forse ha ragione l'America, può darsi che sia una bufala, può darsi che ha fatto un terremoto veramente lì, 5,1 sulla scala Richter. Chi ha fatto il terremoto? No, che c'è stato almeno così. Ah no, che ci sia stato un terremoto a prescindere. C'è stato un terremoto e magari nell'occasione ha detto wow, abbiamo provato. Io almeno l'ho potuto incontrare una volta, è stato molto cordiale con me, io gli ho fatto i complimenti perché ogni anno manda dei calciatori giovani qui in Italia a studiare l'italiano e a studiare la tecnica del calcio italiano. Io penso che un dittatore così, almeno io lo considero non un dittatore, ma bensì uno che si vuole aprire al mondo occidentale. Io ho visto gente che sorridono, gente che lavorano nei campi, lavorano nelle fabbriche dove sono andato a visitare, una vetreria, un altro su quanto riguarda la piantagione di mele, dove fanno succhi di mele, eccetera, eccetera. Hanno molti operai lì, l'ho visto tutti sorridenti, tutti felici. Gente che sorridono è straordinario, eh? Gente che sorridono. Ma alle volte uno si chiede se questo qui ci fa o ci è, perché insomma, alla fine un po' ci fa. Ma no? Un po', però. Oh. Salvini invece dice meglio dialogare con la Corea del Nord che con l'ISIS. Ma adesso però non c'entra, insomma, sono due cose un po' diverse. Comunque. Che il leader nordcoreano sia un problema e un pericolo è chiaro ed evidente a chiunque in giro per il mondo. Che il modo migliore per riportarlo a ragione sia isolarlo ulteriormente piuttosto che dialogarci, questo è discutibile. C'è qualcuno che propone perfino di dialogare con l'ISIS, quindi c'è qualcuno che pensa a dialogare con l'ISIS, penso che sia preferibile dialogare anche con la Corea del Nord. Comunque in realtà il trapianto di feci di cui parlava prima l'ascoltatore risale, diciamo, in una forma diversa, una pratica medica del cinese del IV secolo dopo Cristo. Ah beh, vedi, addirittura. Si chiama la zuppa gialla, sostanzialmente la zuppa di merda. Non vogliamo, ecco, si immaginavo, non volevamo analizzare nel allora, dettaglio. Elena il nome. Da Piacenza, vai Elena. Pronto, Cruciani? Dimmi Elena, dimmi. Ciao carissimo, ciao a tutti. Allora, io ho chiamato perché io ho fatto la escort in passato. Ah, ecco, in che senso hai fatto la escort? Scusami, vedi, Elena. Vedi. E ho fatto la escort, non me ne vanto, però è stato così. Ma perché adesso quanti anni hai? Spiegami. 40, non sono giovanissima. Beh, insomma, sei una ragazzina, 40 anni, dai. Sui 30 anni l'ho fatto. Ma come allora, hai scelto di fare questo nobile mestiere? Per quanti anni hai fatto la escort? 3 anni. Per tre anni. Ma di che tipo? Escort col telefono, per strada? No, di alto livello, di buon livello. Che vuol dire? E intervengo sul fatto che ti faccio dire tutto. Ma dimmi tutto. Hai fatto l'escort per qualche anno, giusto? Sì. E allora? E allora ho avuto rapporti sia con italiani che con arabi, persone del Medio Oriente e persone del Nord Africa. Sì. E quelli pagano molto, perché pagano bene, hanno tanti bei soldini. Però loro non pensano minimamente al piacere della donna. Cioè io ho trovato in loro una volgarità, un pensare solo a se stessi. Ma chi? E questi arabi, questi... Che vuol dire pensare a se stessi? Quando uno va a puttane con un escort non è che pensa... No, hai ragione. Mi dai della puttana e io... della puttana in senso dispregiativo, però hai fatto la puttana, Elena, scusami se te lo l'ho dico. L'ho fatta. Con gli italiani io non ho mai trovato una volgarità così. Ma in che senso? Scusa, spiegami, da che punto dice? L'italiano sei stata maltrattata, ti schiaffeggiavano, ti trattavano come una... No, per carità, questo non lo accetterei. Appunto. Li avrei denunciati. Però loro pensano solo a se stessi, al loro piacere. Credo, vanno a prostitute, vanno a puttane e pensano al loro piacere, non è che pensano a farti godere, scusami. Tu godevi quando facevi la prostituta, no, la escort? Ma per carità, no. No, magari però magari... L'italiano è più gentile. L'italiano è più gentile. Vabbè, la tua esperienza è questa. Scusami, era per una curiosità. La mia esperienza è questa. Per quanti anni hai fatto, mi ricordi, escort? 3 anni? 3-4 anni. Quanto hai guadagnato in tutto? Benino, cioè quanto? Benino. E adesso non te lo dico, insomma. Ma in proprio l'hai fatto attraverso quello che viene definito il magnaccia? No, in proprio. Ma come? Con l'annuncio sul giornale, con il numero di cellulare scritto nei bagni? Come? Attraverso internet, attraverso il cellulare, attraverso conoscenze. Poi passaparola, insomma. Il passaparola, cioè chi conosce chi, eccetera, eccetera. E quanto lavoravi? Ma mediamente avevo un paio di rapporti a settimana, non di più, non molti. No. Per cui a botte di 1.000 euro? No, così 500, alto, no. 500. Sui 400. 400 per quanto? Per la notte, per la serata? Per la serata con la notte. Quindi cena. Scusa, te lo chiedo, ma che caratteristiche avevi tanto da valere 400 euro? Sono una bella ragazza, ero una bella ragazza, sono una bella donna, a 40 anni come mi definisco. No, perché c'è una voce, c'è un po' una voce da più anziana. Sì, diciamo. Ma me lo dicono, sì, non lo so, però no, ero una bella ragazza e sposata, con delle fidanzata? Sì, non eri sposata? Sì. Come sei? No, single. Io sono single per professione, per mia decisione sono single. Va bene. No, ma io non ho capito una cosa, scusami Elena. No, non esercita più, ma te l'ha detto, non fa più questo lavoro. No, quindi... non esercita più, perché hai deciso di smettere? Perché ho trovato un lavoro diverso, più consono ai miei studi e che mi permette di guadagnare bene. No, ma è straordinario. Ma io non ho capito una cosa, ma ti piaceva farlo? No. Cioè ti ma faceva la sua schifo? Famiglia lo sapeva, no? Immagino. No, la mia famiglia. Sennò sa che dolore nessuno, per i genitori. Spero che nessuno mi riconosca dalla voce. No, ma figuriamoci. Quello però è probabile. Comunque, vabbè. No, ma che figura. Ma i suoi genitori, un dolore enorme sarebbe. Ma ho messo in conto questo rischio. Scusami, non ti ho sentito. No, dico, sarebbe un dolore enorme per i suoi genitori sapere che lei ha fatto. Non diciamo banalità, ma è chiaro che sarebbe un dolore enorme. Ah, però... no, adesso anche tu lo dici, come? No, ma è normale che... Per tutto il 2015. No, scusa, perché il signor Cruciani. No, ma la polemica con il signor Cruciani, che per tutto il 2015 ci spiegava che in fondo è una professione come un'altra. Certo, per me è una professione come un'altra. E che quindi non c'è da essere. Ciò non toglie che per un genitore. Per moralista. Ciò non toglie che per un genitore. Dicevi, no, ma chi se ne frega? Ma uno no, di uno deve non ho mai detto sente. Che per un genitore. Mio papà, se lo sapesse, poverino, si suicida. Ma certo, ma chiunque, ma che scherziamo? Solo Cruciani può suicidare. Si suicida, no, io non ho detto questo. Ho detto che è evidente. evidente che per un genitore, se, un se dovesse enorme, sapere, enorme. Potrebbe essere un dolore, non no, c'è potrebbe. Dubbio. Assolutamente. Potrebbe essere un dolore, a meno che era enorme, tu potresti spiegare a tuo padre tranquillamente, guarda, io avevo bisogno di soldi, volevo vivere ma bene, eccetera. Scherzi, ma è un dolore enorme, dai. E su, mi, facevo non paio, mi facevo un paio di scopate a settimana. Ma per carità, poi di questo si tratta, no? Ma per carità di Dio. Ma tu gli uomini li sceglievi o venivi solo scelta? Li sceglievo, nel senso che quelli troppo volgari che attraverso internet o attraverso appunto conoscenze di conoscenze mi comparivano troppo volgari, troppo particolari, li evitavo. Però questi nordafricani e questi arabi medio orientali con cui io sono stata hanno abitudini molto normali. E allora? Cioè, la posizione del missionario, insomma, molto cioè? Tranquillamente. Cioè? Beh, lo sai, Cruciani. No, dai. Lo so qual è, sì, so qual la è. La donna sotto, l'uomo sopra, l'uomo che gode come un matto, e però non hanno... fantasia. No, non hanno fantasia. E questo un po' ti dispiace. Parla del Kama Sutra, magari arabo, ma questi non lo applicavano. Ma questo è interessante. Ma Elena, io non ho capito una cosa. Ma c'è stato qualcuno che ti ha. Cioè, tu godevi quando facevi quando avevi questi rapporti? Mai, mai. No, no, mai, mai, mai. Era un modo, un lavoro. Era un lavoro. E facevi finta? No. No, perché a loro non gliene fregava niente, quindi non facevano niente. Vabbè, dovevano stare con te però tutta la notte, non era una botte via. Erano anche magari due o tre. In che senso? Due o tre botte via per loro. Ah, ho capito, però... sì. Però no, per me non c'era piacere e a loro non interessava minimamente. Mentre il cliente italiano è gratificato se tu fai finta di avere l'orgasmo. Ah, tu dici, mentre l'italiano ha bisogno di una complicità da parte della donna, sì. Diciamo che il nordafricano, quello che è, insomma, no? Quello che questa dici... è la mia esperienza, Cruciani. Se ne poi, fottono, per carità, se ne fottono. Sono più brutali, diciamo, no? Sono molto più brutali, sì. Però nello stesso tempo a questi signori piace solo una posizione, strana come cosa però. Eh sì, questa è la mia esperienza, piace quella proprio tradizionale, non hanno fantasia e vabbè. Così. Ciao Elena, ciao. Ciao, ciao carissimo, ciao, ciao. Ciao. Ciao. L'ex escort. Ciao carissimo, ciao. Ciao conoscono, carissimo. Si frequentano. No, no. Vai a saperlo tu. Allora, dove andiamo? Andiamo a Vicenza, Luca, vai. Buonasera. Vai, dimmi. Trasmissione numero uno come sempre. Poi stasera quando ho sentito parlare di merda mi sono illuminato. Immedesimato, di pure. Che è successo, Luca? Che è successo? No, perché io a casa purtroppo sto guidando e ho male appena ricordo del titolo. Ho un bellissimo libro dove vengono decantate tutte le scorregge, capito? Cioè? Ecco, tutte le tipologie, quindi c'è quella grassa... quella un po' più secca, quella un po' più... e parla proprio di tutte le tipologie di scorregge. Allora era molto interessante fare questo parallelismo. Però citami qualcosa, amico mio. Allora, tipo, ti faccio un esempio, che quando uno scorreggia sotto le lenzuola, adora annusarsi le sue, ma non quelle degli altri, per dirvi, capito? Vabbè, quello là abbiamo già dato da questo punto di vista. Il famoso forno olandese, eccetera. Ecco già dato, qua. Forno no, interessante perché parlava di tutte le tipologie fatte. Ma anche da quello si può capire, anche da quello sicuramente si può capire il proprio intestino, no? Anche dalla... Esatto. Vabbè, Luca, ciao, non volevi dire niente. Ti saluto, buona serata numero uno, come sempre. Lazar, Brescia, vai. Oh, Sheikh Cruciani. Lazar, dimmi, Lazar, allora, fratello, dimmi, fratello. Sheikh Cruciani, cazzo. Lo sai cosa vuol dire Sheikh, no? Sheikh è per rispettare la gente, Sheikh. Ciao, Parenzo. Mi ciao, avete caro. Consumato un salam sacco di tempo, cazzo. Salam sull'aia. Bravo. Sei forte. No, devi guarda, veramente. Io se ti dico sempre... salam aleikum, devi rispondere aleikum salam. Aleikum salam, sì, è giusto. Dai, su, ma che è sta roba, dai. Sheikh Cruciani, veramente, mi avete consumato un sacco di tempo, cazzo, della mia vita, di queste cazzo di zanzara di merda. Signor che io, Lazar. Veramente, sono pentito l'intellettuale di Medio ascoltarla Oriente, per Lazar. La prima volta, perché veramente sono attaccato sempre. Dopo di questo... veramente avete una imbiante di maiale, veramente. Ecco, questa imbiante, esatto. Questo è vero. No, sul serio, cazzo. La vostra trasmissione è molto pericolosa, comunque. Vabbè, Lazar, che vuoi dire? Perché sei intervenuto? Allora, certe gente di voi, di ascoltatori, quando chiamano, ti giuro, non sto scherzando, veramente ho mangiato una bistecca prima e mi sono andato in bagno, l'ho vomitata, cazzo. Perché? Perché veramente sono di barboni, cazzo. Sono di barboni, in senso barboni dire? In testa. Cazzo, parlavano di immigrati e lì nordafricani, torpeggiano lì i tedeschi, ma che cazzo sta... Ma tu consenti queste persone, anche figa, tu mandali veramente a qualche medico, devono andare qua, figa, perché non... Cioè tu alterni veramente... cazzo e figa come se fosse una... Sì, è un intellettuale del Medio Oriente, un intellettuale medio orientale. No, vabbè, no, allora... davvero... sì, allora a queste gente che non capiscono veramente un tubo, già ce l'abbiamo i leghisti, che soffriamo con i leghisti, e ci mettiamo ancora quelli che chiamano la zanzara. Queste gente devono andare veramente a qualche medico, a qualche... medico, veramente, qualche psicologo, le spiegano il caso contro questi africani o immigrati. Lo sanno che questi immigranti alla fine contribuiscono 13 miliardi o 14 miliardi di euro ogni anno. Non parlano di queste cose, ma parlano di due o tre bastardi che combinano quel... A Colonia erano più di due o tre, amico mio. Io ho visto il video comunque e non sono convinto. Vogliamo la verità alla fine, però... al posto di parlarne così e sparare di cazzate destra e sinistra. Ma di cos'è che non sei convinto? Sotto, non ho capito, no, di cos'è che non sei convinto. Io ho visto il video, ma non si vede niente sul video. Sì, certo, ci sono ma ci sono testimonianze. Ma adesso io non farei una difesa corporativa. Adesso, amico mio, che vuoi dire? Stai negando che ci sono state delle moleste, che ci sono state delle percosse? Qualcosina, piccolino. Aspettiamo il tribunale, aspettiamo comunque la giustizia, cosa dicono, e alla fine, se c'è qualcosa, ne parleremo dopo. No, ma tu sembri l'ispettore Clouseau innanzitutto, sì, però. No, beh, sì, un po' l'ispettore Clouseau, però scusami Lazar, tu stai veramente, cioè è una vergogna quello che stai facendo, stai sminuendo e stai così, no, di qualcosina, allora, è successo, allora, dai. Allora, qualcosina, cioè per te lo stupro sicuro, come sicuro. Qualcosina, che vuol dire qualcosina? No. Sei impazzito, qualcosina, dai. Però cioè per te esagerata un po', mille persone di gruppi, dai, su. Cioè non c'è nessuno. La gente così avranno paura, scusa. Non c'è nessuno stupro, dici ragazzi, te. Ragazzi, no. Uno stupro è stato, ma neanche stupro, uno alla fine, e poi ti sto dicendo, aspettiamo alla fine, quando la giustizia... Quale fine? Aspettiamo alla fine di che cosa? Dei processi, che ne so, processi, vabbè, che c'è bisogno sempre di aspettare male, la fine. E meno male fino adesso, meno male, e grazie a Dio veramente, meno male che... qua in Italia non è successo niente, mamma mia, se succede qualcosa qua, Lazar, ciao, Clodio, provincia di Torino, Clodio. Io di Clodio conosco solo il piazzale, Clodio. E pure io, non capisco come si fa a chiamarsi Clodio. Pronto? Dimmi, ciao, Clodio, ciao. Dimmi. Mi senti? Sì, come cazzo uno, come si fa a chiamarsi Clodio? Clodio. Vabbè, comunque uno si chiama Clodio. Cambialo sto nome, Clodio, dai. Vabbè, dimmi. Dai, Clodio è bellissimo, tre a due sillabe, no? Vai, dimmi. Allora, no, mi è piaciuto un casino il discorso sulla merda. Sì, lo so, dimmi. Perché, no, ho scoperto una cosa, la descrizione che hai fatto dei sette stadi. Sì. È proprio, lo conosco, nel senso che ho fatto degli esperimenti, no? Cioè? E ho scoperto il kefir, che non so se... Il kefir, che è il kefir? Il kefir è una specie di yogurt di capra, sì, che viene fermentato insieme a altri elementi alcolici, non so bene. Comunque... E che fa? E contiene una quantità di batteri pazzesco, ma sembra che siano batteri positivi, no? E dunque in cosa aiuta questo kefir? È esattamente a far passare dalla fase 7... alla fase 4, quella perfetta, cioè che dalla sciolta alla solidità, diciamo. Bravissimo, cioè dalla merda sciolta a quella solida. Bravissimo, perché vai a incrementare i batteri buoni che compongono il tuo microbiota. Cioè, attraverso questo kefir, puoi passare nella scala che abbiamo fatto prima, dalla scala 6 o 7 a quella 4, cioè alla perfezione, alla solidità. Esatto. Puoi passare dalla sciolta al dentifricio, quello anche un po' solido. Bravo. Beh, penso che possiamo veramente fermarci qui, io penso. Non per la musica. Dopo la scala di Bristol, che poi è la scala della merda, ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao. E sti cazzi. Non ci lo metti.